si può fare. Cronache da un paese migliore di Alessio Maurizi. Buongiorno, buongiorno a tutti cari ascoltatori, buon sabato, ben ritrovati da Alessio Maurizi con Si può fare. Stiamo insieme in diretta fino alle 10, ci ritroviamo con l'appuntamento del weekend, il buongiorno di Radio 24, il sabato e la domenica mattina, dopo, cioè ci siamo già ritrovati in realtà sabato e domenica scorsa con Federico Taddia in sostituzione, dopo una pausa diciamo così di sostituzione mia nell'orario serale, la zanzara, di vacanze eccetera eccetera. Ben ritrovati a tutti cari ascoltatori, i nostri contatti se volete interagire con noi dopo, fin da subito daremo un'occhiata alle prime pagine dei giornali e poi dopo con i nostri approfondimenti le buone notizie di Si può fare, la pagina Facebook Si può fare trattino Radio 24, l'account Twitter chiocciola Si può fare 24, il mio è chiocciola Ale Maurizi. Un'occhiata ai giornali con naturalmente tutti gli approfondimenti possibili e immaginabili sullo grande shock, i tre giorni terribili che si sono conclusi ieri, almeno momentaneamente, speriamo che non ci siano altre sorprese a Parigi, e poi insomma affronteremo anche noi l'argomento in qualche modo. Come sempre quando ci sono azioni di terrore di questo tipo l'opinione pubblica si divide, siamo in guerra oppure sono persone isolate, sono terroristi isolati, e in questo caso loro sono gli islamici. Cercheremo di capire se, come dice Salvini, l'Islam è pericoloso oppure e se è in corso una guerra santa tra noi e loro, oppure se è vero che per quanto tirino in ballo Allah e il Corano, i terroristi non rappresentano tutti i musulmani, 1,5 miliardi di musulmani nel mondo. Parleremo con i giovani di un'associazione che si chiama Partecipazione e Spiritualità Musulmana, che vanno in giro cercando il dialogo proprio in Italia, nelle nostre città. Questo più avanti, dopo il giornale radio delle 8. Adesso, come detto, iniziamo con i giornali di oggi. Perché notizie più costose, più fresche, più narrate. E allora cominciamo con il Corriere della Sera, un titolo a tutta pagina, la battaglia di Parigi. I terroristi islamici uccisi in due blitz dopo ore di assedio, tra gli ostaggi 4 vittime, rivendicazione firmata da Al Qaeda. Di ricostruzioni ne avrete sentite sicuramente molte, anche il giornale radio poco fa ve l'ha riproposta. Ci sono ancora dei punti oscuri, qualcosa da chiarire sicuramente. Intanto qualche commento. Il giorno più lungo, Massimo Nava sul Corriere scrive: se chi ci odia è cresciuto in mezzo a noi. Oppure Antonio Polito propone un'altra riflessione sempre sul Corriere: gli indifferenti, svegliamoci, troppi silenzi e amnesie. Non c'è da meravigliarsi se l'aula di Montecitorio era semivuota, mentre il ministro dell'interno Alfano riferiva ieri sulla nuova guerra santa scatenata in Europa. Tutto sommato è lo stesso Parlamento che, scrive Polito, rinunciando agli F-35 sarebbe pronto a disfarsi dell'arma aeronavale nel paese che è geograficamente una portaerei del Mediterraneo. È certo un ritardo antico, abbiamo sempre inteso la politica estera come una paziente attesa di ciò che avrebbero fatto gli Stati Uniti o la Francia. Quindi diciamo si sottolinea come ieri questi banchi vuoti del Parlamento di fronte all'informativa, scandalosi veramente, di fronte all'informativa di Alfano su quello che stava succedendo in Francia e soprattutto su quanto è il coinvolgimento dell'Italia. Adesso vedremo, ci sono anche elementi per quanto riguarda l'Italia. Parlamento semivuoto, frutto di un'indifferenza in Italia, ma forse Polito vuol dire anche in Europa, sicuramente in Italia, dove la politica estera si lascia intendere quasi non esiste o va al traino di quello che decidono gli Stati Uniti. Tra diciamo gli approfondimenti, le notizie possibili, è molto interessante il momento nel quale un giornalista francese ha contattato telefonicamente uno dei terroristi. che era dentro, si trovava dentro, in questo caso dentro, era Quashi, dentro il supermercato, e è andata così, sentite, perché è interessante. Siamo i difensori del profeta. Sherif Quashi è rintanato con il fratello nella stamperia di Dammartin, anzi no, qua siamo nella tipografia, perché poi una telefonata c'è stata anche nel supermercato. Questo che racconta il Corriere è la telefonata ai due fratelli nella tipografia Dammartin Angle. Lui sa di essere vicino alla morte, è quello che ha proclamato poco prima ai negoziatori della polizia: siamo pronti al sacrificio dei martiri. Accetta così di parlare con un giornalista della radio e televisione BFM TV, un modo di rivendicare la strage alla redazione settimanale Charlie Hebdo. Il reporter francese Igor Shahiri sta cercando di raggiungere testimoni dentro l'azienda, fa squillare il telefono, risponde una voce, il giornalista chiede se effettivamente abbia contattato uno degli uffici, la voce dice: sono Quashi. A quel punto Quashi racconta del suo addestramento, dei viaggi in Yemen dove è stato indottrinato dallo sceicco Anwar al-Awlaki, considerato uno dei leader di Al-Qaeda nella regione, ed eliminato poi da un drone americano nel settembre del 2011. Le parole dell'estremista evidenziano quanto consideri la carneficina di mercoledì a Charlie Hebdo un'operazione militare. I disegnatori e altre vittime ammazzate a colpi di fucile mitragliatore non sono civili, li chiama bersagli, dice di non voler uccidere donne e bambini anche se gli occidentali li massacrano in Iraq e Afghanistan. Altrove, forse su Repubblica, c'è proprio riportata integralmente la, insomma, questa breve telefonata tra il giornalista e l'attentatore dentro la tipografia. Un altro commento che andiamo a cercare sempre sul Corriere è quello del filosofo Emanuele Severino, che dice, evidenzia come insomma il salto tra essere cellule isolate e una minaccia più ampia, più globale, quella di uno Stato islamico in guerra con l'Occidente, è questo il punto cruciale. Dice Severino: per diventare una minaccia alle strutture del mondo occidentale deve acquisire un carattere tecnologico-industriale, e perché ciò accada occorre uno Stato, ma se per realizzare quella minaccia uno Stato terrorista islamico è indispensabile, la sua esistenza è anche controproducente, un pericolo per la propria sopravvivenza. Infatti esso sarebbe ben visibile, la sua distruzione incontrerebbe meno difficoltà tecniche che non l'individuazione e la distruzione della nebulosa costituita dalle cellule terroristiche sparse per il mondo. Si preannuncia un tempo in cui la volontà del terrorismo di uscire dallo stadio artigianale nel quale, secondo Severino, si trova ancora il terrorismo islamico, impadronendosi delle opportunità offerte dalla tecnica, sarà in conflitto, questa voglia di uscire dallo stadio artigianale sarà in conflitto con la consapevolezza del pericolo a cui si va incontro con la costruzione di uno stato terrorista islamico, il califfato, no? Inevitabilmente richiesto da quella volontà. Cioè si discute se siamo di fronte a cellule isolate, reti, o a un salto di qualità di una guerra fatta anche da uno Stato. Severino sul Corriere dice: quando e se questa minaccia vorrà fare, diciamo, l'upgrade di essere incarnata da un vero e proprio Stato islamico terrorista in guerra con l'Occidente, il califfato, in quel momento si produrrà un elemento di debolezza per i terroristi, perché saranno più scoperti, saranno più evidenti, uno Stato sarebbe, come dire, oggetto di una repressione, di una reazione evidente da parte dell'Occidente. Quindi questo è un po' il punto evidenziato dal filosofo Emanuele Severino, che ha scritto molto anche su questi argomenti. Per quanto riguarda l'Italia, dicevamo, le minacce, ci sono delle minacce per quanto riguarda l'Italia. Intanto ieri ha parlato Angelino Alfano di fronte a un Parlamento semideserto, come ha ricordato Polito sul Corriere. Repubblica scrive così: quattro i jihadisti italiani, tra loro c'è una donna. Alfano: sicurezza rafforzata. Il ministro parla alla Camera e annuncia via alla procura antiterrorismo. L'Italia è a rischio perché ospita il Papa e perché è amica degli Stati Uniti. per il ministro dell'interno Alfano, che ieri ha relazionato alla Camera dopo l'attentato di Parigi, l'allarme nel nostro paese è altissimo, anche se, questo è già stato detto fortunatamente, mancano segnali di imminente pericolo. Il Vaticano però è sottoposto in queste ore a misure di prevenzione invisibili, spiegano al Viminale, mentre la nostra intelligence continua a monitorare la propaganda islamista su internet, che invita a compiere attentati in vari stati d'Europa, Italia compresa. Da qui l'intenzione del ministro Alfano di proporre al prossimo Consiglio dei Ministri un decreto legge con nuove norme antiterrorismo jihadista, prima fra tutte l'oscuramento dei siti di propaganda radicale. E queste, diciamo, sono le novità in arrivo possibili annunciate da Alfano, che poi ha parlato di queste cinquantina di ex combattenti reduci dai teatri di guerra in Siria, in Iraq o in altri paesi dove si addestrano questi guerriglieri, che siano passati in qualche modo, transitati dall'Italia, insomma, i cui documenti siano stati tracciati dalle nostre frontiere, nei nostri aeroporti, dalla polizia. È curioso che ci sia questo transito, diciamo, da zone di guerra, da persone considerate come arruolabili nell'esercito del terrore, che vengono in qualche modo censiti, ma non si possono arrestare o non si possono fermare per vari motivi. Tornando al discorso addestramento nei teatri di guerra, reportage o l'approfondimento di Maurizio Molinari sulla Stampa a proposito dello Yemen. Abbiamo letto prima della telefonata di un giornalista francese all'interno della tipografia dove era serragliato uno dei due terroristi, due fratelli Quashi, e Sheriff diceva, ricordava di essere stato in Yemen, addestrato lì. Ecco qua quello che succede, lo scrive Maurizio Molinari sulla Stampa: i terroristi addestrati nello Yemen per portare la paura tra gli infedeli, la costola di Al-Qaeda che ha unito le cellule del Golfo a quelle africane, creati da Osama Bin Laden per far rinascere Al-Qaeda dopo la sconfitta afghana, diventati la cerniera tra i jihadisti del Golfo e dell'Africa, protetti dalle impervie montagne Mafad, fino al punto da dichiararsi emirato. Sono i campi di addestramento di Al-Qaeda in Yemen, dove Said Quashi si reca nel 2011, Said Quashi è uno dei due terroristi, si reca nel 2011 per ricevere l'addestramento e ad uccidere, messo in mostra poi nel Blitz di Parigi. Qua Quashi incontra, come abbiamo già detto, come ha detto lui stesso, l'imam Anwar al-Awlaki, che nel settembre di quell'anno viene poi eliminato dagli americani. Al-Awlaki è il leader jihadista yemenita che viene dal New Mexico. Attenzione, perché anche questo signore, questo leader jihadista, addestratore di terroristi, viene dal New Mexico, cioè dall'America, teorizzando del ricorso ai musulmani occidentali per colpire i paesi infedeli. È lui, questo signore, che ha addestrato il terrorista di ieri a Parigi, che aveva già nel 2009 spinto il maggiore americano della USA Army, Nidal Malik Hassan, a sparare sui commilitoni nella base texana di Fort Hood, facendo 13 vittime e convincendo anche il nigeriano Umar Farouk a salire ad Amsterdam, non so se ve lo ricordate, sul volo 253 della Northwest Airlines con l'esplosivo letteralmente nascosto nelle mutande nel tentativo di farlo esplodere su Detroit. E questo è diciamo la dinamica. Questo sceicco del terrore che viene dal New Mexico apre su indicazione di Osama Bin Laden una base, un campo operativo in Yemen, dove addestra possibili terroristi che vengono però dai paesi occidentali. Cioè la psicologia è proprio quella: colpire i paesi occidentali, i paesi cosiddetti infedeli, tramite persone che ci vivono e che quindi conoscono il paese, sanno come muoversi e forse sanno anche quali simboli vanno colpiti più di altri. Ed è quello che è successo con i fratelli Sharif Quashi. Gli obiettivi da colpire, dicevamo, sono chiari, lo scrive bene anche Bernardo Valli su Repubblica, sempre il suo reportage da Parigi, nel quale dice così: Il desiderio di punire Charlie Hebdo per le caricature di Maometto ha fatto scegliere come vittime i disegnatori del settimanale satirico, ma il clamore che avrebbe suscitato l'assalto a un giornale ha contribuito alla decisione. I due fratelli terroristi e i loro complici avevano un macabro senso della pubblicità, scrive Bernardo Valli. L'hanno ereditato dagli uomini del califfato che quando tagliano le teste fanno dei video da mostrare con fierezza al mondo. Poi sempre a proposito di Parigi, scrive Valli, la Francia si scopre in guerra, blitz, 20 morti in 3 giorni, città sotto assedio, tutti uniti contro la jihad, ma la capitale violata, forse per la prima volta in questa maniera, ed è solo l'inizio. Infatti, scrive così Bernardo Valli, nei momenti cruciali François Hollande ha dato impressione di prendere le decisioni importanti, a tratti si è spostato nel Ministero dell'Interno, nella piazza Beauvau, a Tigua, al Palazzo dell'Eliseo, si è rivolto più volte al paese, conclusi gli assedi, però ha avvertito Hollande che le minacce non si sono dissipate. Attenzione, e lo stesso Didier Tauzin, generale delle forze speciali, è più diretto e dice che c'è un'offensiva in corso contro la Francia e che è soltanto l'inizio. Quindi la morte dei terroristi, conclude Bernardo Valli, non ha placato i timori. Ci fermiamo per il traffico, torniamo tra pochissimo continuando a leggere dai giornali di oggi. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Eccoci qua, cari ascoltatori, di nuovo buongiorno da Alessio Maurizi, di nuovo in diretta, in compagnia di Si può fare, staremo insieme fino alle 10, stiamo dando un'occhiata alle prime pagine, insomma alle pagine dei giornali di oggi che riportano naturalmente molte notizie, molti approfondimenti, molti commenti anche su quello che ha vissuto a Parigi in questi tre giorni del terrore. Leggiamo così alcuni titoli, poi magari ci torniamo, giusto per dare un'idea. Abbiamo letto il titolo del Corriere della Sera, La battaglia di Parigi. La Stampa scrive Parigi, uno shock senza fine. Il Sole 24 Ore sceglie un doppio titolo, doppio blitz in Francia, uccisi 3 terroristi e 4 ostaggi, poi banche a picco giù Milano e Madrid, i mercati temono gli acquisti BCE e titoli di Stato non superino i 500 miliardi, quindi diciamo c'è anche un titolo economico per il Sole 24 Ore. Naturalmente Repubblica scrive così, il giorno più lungo della Francia, uccisi i killer e 4 ostaggi. Il Fatto Quotidiano, Parigi, rosso sangue, 7 morti ammazzati nei 2 blitz delle forze speciali francesi, i due fratelli della strage di Charlie Hebdo, uno dei due estremisti che hanno assassinato la vigilessa, l'altro è ancora in fuga, e 4 ostaggi nel supermarket ebraico, sicurezza sotto accusa, Israele mobilita il Mossad. Libero, titolo, benvenuti in Eurabia, la Francia sconvolta dai terroristi islamici. Il paese amico degli arabi e simbolo dell'integrazione è stato insanguinato e tenuto prigioniero per 3 giorni da Italia con le di Allah. Basta con l'accoglienza, scrive Libero, sposando la tesi di Salvini, e finiamola di negare che contro di noi è stata dichiarata una guerra di religione, ci vogliono leggi speciali. E questa è la tesi di Giuliano Ferrara, che c'è la guerra santa dell'Islam contro la civiltà giudaico-cristiana. Titolo del giornale invece è questo, uccisi finalmente, la guerra di Parigi, fermata la mattanza dei 3 terroristi islamici, ma sul campo restano altri 4 civili, l'Occidente ostaggio di Maometto. Adesso magari prendiamo anche qualche altro titolo, vediamo se ce l'abbiamo a portata di mano. Avvenire, un fanatico piano di morte, scrive il quotidiano di ispirazione cattolica, giorno di terrore a Parigi con ostaggi, 2 blitz e 3, i 3 jihadisti uccisi, 4 vittime in un negozio ebraico, unica strategia dietro gli attacchi. Ancora qualche titolo, vediamo se ce l'abbiamo. Il Messaggero scrive così: uccisi killer e ostaggi, shock a Parigi, doppio blitz contro i terroristi islamici, morti due fratelli responsabili del massacro a Charlie Hebdo, eliminato il terzo jihadista barricato in un market ebreo e ebraico, quattro clienti tra le vittime, ricercata la compagna, che in effetti manca all'appello, la compagna dell'altro terrorista, quello del supermercato, che invece era stata avvistata con lui proprio nelle ore precedenti il blitz. Sulla stampa il commento di Domenico Quirico, che è stato rapito in Siria proprio da questi estremisti, diciamo, dell'integralismo islamico, che propone una tesi, diciamo, interessante: la globalità del nuovo islamismo. Scrive Domenico Quirico: nei jihadisti che ho conosciuto, platealmente feroci o ipocritamente machiavellici, c'era un elemento comune. Ciascuno di loro si sentiva la piccola parte di un tutto, e il tutto era visibilmente una parte di loro. Al di là del gioco di parole, cerchiamo di seguire questa analisi di Quirico sulla globalità del nuovo islamismo. Dice: se fosse questa globalità psicologica, ma anche pratica, operativa, militare, il segreto della loro pestifera potenza, è quello che ci impedisce di capire. Il totalitarismo islamico è, nella sua essenza, senza confini. Li vuole distruggere i confini, le frontiere, le nazioni. Un'unica ecumene, quella di Dio. Mentre noi occidentali, laudatori della globalizzazione, in realtà, penosamente, scrive Quirico, continuiamo a ragionare nei limiti dei vecchi confini nazionali, soprattutto quando sono i nostri. Andiamo ancora avanti, un passaggio, vediamo. È importante questa analisi, oltre perché Quirico è una persona sicuramente intelligente e lucida, ma è stato nelle mani degli integralisti islamici per un bel po' di tempo, quindi la sua analisi anche psicologica è interessante ed è sicuramente documentata. Scrive Quirico: oggi l'internazionale islamista non ha testa. Al-Baghdadi è soltanto un nome, la pedina di una globalità. La bestia non è più il serpente che esiste in natura, è il leviatano, l'idra che rinasce ad ogni testa mozzata, si ricostruisce per partogenesi. Il comando francese è annientato, un altro colpirà senza ricevere ordini, come in una catena di montaggio. Qualche forza militare al servizio dell'Occidente, curdi, sciiti, nigeriani, kenioti, riconquista zone di territorio piegate alla Sharia. La ribellione globale in nome del califfo si rinfiamma in un'altra parte del mondo. Non hanno fine le terre di jihad. L'intuizione politica, prosegue Quirico, della ricostruzione del califfato ha trasformato, con la predica di uno sconosciuto ribelle iracheno nella moschea di Mosul, il califfo appunto, i fanatismi di migliaia di singoli in una manciata di insurrezioni tribali in un tutto. Le ferite che ciascuno riesce a infliggere allargano lo squarcio, la smagliatura. Un colpo dopo l'altro arriveremo ad essere assediati nelle nostre città. E questa è la tesi piuttosto cupa, ma forse anche, come dire, sicuramente documentata, forse anche realistica, di Domenico Quirico sulla stampa. Una curiosità invece ce la ricorda sempre il Corriere della Sera, ed è questa: la commedia di Dante è quella prima satira feroce su Maometto. Scrive Paolo Di Stefano: i terroristi di Parigi forse non sapevano che circola liberamente, lettissima non solo in Europa, una satira di Maometto più feroce di quella di Charlie Hebdo. Si tratta di una ventina di versi contenuti nella commedia dantesca Canto 28 dell'Inferno, dedicato ai seminatori di discordia. Quei versi mettono in scena il profeta nella bolgia più sozza che si possa immaginare, piena di corpi orrendamente completamente mutilati e sfigurati. Vi compaiono per primi Maometto e Ali, suo cugino, genero e successore come califfo. Secondo le leggende e le convinzioni dell'epoca, condivise da Dante, l'Islam era il risultato di uno scisma nell'ambito della cristianità. Cardinale o monaco, Maometto, amareggiato per non aver conseguito il papato, avrebbe fondato una nuova dottrina. E quindi viene il riso, viene preso in giro Maometto in questi versi di Dante, per questa sua decisione, appunto, non essendo riuscito a diventare papa, di fondare un'altra chiesa, un'altra religione. Ecco, nella stessa pagina, tra l'altro, del Corriere, viene riportata per gli amanti una intervista di Oriana Fallaci del 1970 ad una terrorista palestinese che fece esplodere due bombe in un supermercato di Gerusalemme, provocando una carneficina. Rashida è il titolo. Un neonato per te è un nemico? Era una delle domande che Oriana Fallaci faceva a questa terrorista in questa intervista. Leggiamo la risposta che veniva data nel 1970 a questa domanda, a cui il Corriere dà grande spazio perché è anche un titolo della prima pagina. Le parole di Oriana, che il Corriere ripropone periodicamente, alla domanda sul se anche il bambino sionista è un nemico per la terrorista palestinese, la risposta della terrorista palestinese era questa domanda me la ponevo anche io quando mi addestravo con gli esplosivi. Non sono un criminale. Ricordo un episodio che accadde proprio al supermarket un giorno che vi andai in avanscoperta. C'erano due bambini molto piccoli, molto graziosi, ebrei. Istintivamente mi chinai e li abbracciai, ma stavo abbracciandoli quando mi tornarono in mente i nostri bambini uccisi nei villaggi, mitragliati per le strade, bruciati dal napalm. Quelli di cui loro dicono: bene, se muore non diventerà mai un fedain. Così respinsi quei due bambini e mi alzai e mi ordinai: non farlo mai più, Rashida. Loro ammazzano i nostri bambini e tu ammazzerai i loro. E questo mi sembra più che altro, come dire, il reportage di una mostruosità crescente, no? Che c'era insita in quel tipo di guerra, di guerriglia e di guerriglieri, che però tragicamente, ahimè, sono ancora attivi. Ancora una notizia invece ve la voglio dare, e riguarda Fidel Castro, perché ieri c'è stato tutto un giallo attorno alla morte possibile o alla la sorte di Fidel Castro. Il Messaggero chiarisce: Fidel Castro, nuove voci sulla morte, poi la smentita di Cuba, sta bene. Fidel Castro è vivo e sta bene, si era sparsa per l'ennesima volta nei giorni scorsi, ieri con più insistenza sul quotidiano diario Las Americas, subito ripreso dalle TV dello stesso gruppo America TV, la notizia della morte del leader massimo, corroborata da un annuncio attribuito al governo cubano di una conferenza stampa indetta per il pomeriggio. Poi la smentita: non c'è nessuna conferenza. Dalla Grecia anche la smentita di Alejandro Castro Espin, figlio del presidente cubano in carica Raúl Castro, fratello di Fidel. Alejandro dice che ha incontrato lo zio tre giorni fa, di averlo trovato in ottima salute, Fidel è in forza e lavora. Se fosse successo qualcosa, io e il popolo cubano lo avremmo saputo subito. È tutto. 800 24 00 24, è tutto per ora. Adesso c'è il giornale radio, poi torniamo subito dopo, apriremo anche il numero verde per i vostri interventi, cari ascoltatori. A più tardi, a dopo, ciao. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Because you know I'm all about that bass, about that bass, bass, bass. Buongiorno di nuovo, buongiorno da Alessio Maurizi e da Carlo Gabardini. Buongiorno a tutti e buon anno. Bentornato su queste scene. Sono no, molto contento di essere qua. Pur di scappare dal mio trasloco, sono felicissimo di essere in radio. È un po' tardi per dire buon anno, che fa poche Pasqua. Sì, forse è un po' tardi. No, si può ancora dire almeno fino al 15 di gennaio. Si può dire, forse fino al 15 di febbraio. Secondo me, 15 di febbraio, tranquillamente. Il tuo sarà il trasloco più lungo della storia? O... Della storia dei traslochi, direi. Proprio, dell'umanità. Assolutamente. Sì, sì. E poi è bello. A che punto perché... sei, Carlo? Sono in altissimo mare. Sono in mezzo agli scatoloni. Ma hanno appena allacciato il gas. Di questo sono molto contento. Perché poi in mezzo ho avuto anche delle vicissitudini. Nel senso che sono arrivati per aprire il contatore del gas e hanno trovato una fuga di gas. Ah, così, per iniziare. Sì, esatto. Se posso iniziare subito con una battutaccia. Infatti mi immaginavo di esplodere in questa casa, morire, e poi i giornali avrebbero titolato "Gay ucciso dalla fuga". E mi sembrava un bel titolo, diciamo. Vabbè, Carlo, io mi ricordo solo questo. L'ultima volta che ci siamo sentiti abbiamo fatto un collegamento. Tu dicevi di essere in collegamento da uno scatolone, esatto, di casa tua. È lo stesso scatolone da cui stava uscendo di tutto. È lo stesso scatolone nel quale ho dormito stanotte, direi. Infatti ero felicissimo alle 6 quando finalmente ha suonato la sveglia. Ho detto: oh, che bello, finalmente posso uscire dal mio scatolone e andare a Radio 24. Si può fare. 800 24 00 24. Cari ascoltatori, abbiamo fatto un'abbondante lettura di giornali con tutte le notizie, approfondimenti sui tre giorni della follia di Parigi. Sì. Ieri ci siamo sentiti, anche tu eri attaccata alla televisione. È stata una giornata pazzesca. Vabbè, insomma, lo sanno tutti, non è che... Però in più con questo fatto degli avvenimenti che accadono in diretta, devo dire, che è sempre un po' come avvenne per l'11 settembre, dove addirittura calcolarono di metterci tutti davanti al televisore per far arrivare il secondo aereo. Però anche in questo caso era incredibile, diciamo, la questione di che tutto il mondo fosse attaccato a un televisore con due attentatori dentro in una tipografia e due dentro un supermercato kosher, giusto? Kosher, forse, non ho mai capito esattamente. Iper Kosher, la marca del supermercato è Iper Kosher, quello era il nome. Mi hai detto che hai seguito la 7 Mentana, sì, a parte che avresti dovuto seguire di più anche Radio 24, ma insomma, è vero, hai ragione. Però chi sta a casa magari segue la televisione, e c'è stato un Mentana in diretta. Io l'ho visto a un orario molto prestanzuolo, che confesso che mi ha fatto anche un po' sorridere, perché mi sembrava veramente desideroso di andare in onda, e addirittura è comparso di fianco la giornalista che giustamente, avendo di fianco il direttore, era un po' spaventata. Intorno alle 16, credo, se non prima, ha iniziato a dire alzati, questo è il mio posto, diciamo, e poi è stato in onda penso fino all'una, non so, io l'ho visto fino a degli orari, quindi quasi un record. Prima dell'una però. Allora, noi tra poco entreremo anche in questo dibattito un po' alla maniera di Si può fare. Cercheremo di capire se come dice Salvini l'Islam è pericoloso, se come in un commento, in un editoriale di due giorni fa, Sallusti sul giornale diceva altro che Islam moderato, l'Islam moderato non esiste, siamo in guerra con l'Islam, se è vero questo, oppure se è vero che si può fare il dialogo, si può esiste l'Islam moderato. Nel mondo ci sono 1,5 miliardi di persone che seguono la religione musulmana. Ne parleremo tra poco con dei ragazzi che appartengono a un'associazione che si chiama Partecipazione e Spiritualità Musulmana, che prima che tutto questo accadesse già andavano in giro per le città italiane con dei volantini, forse non so se a fare proseliti, anche se questo non è, diciamo, l'interesse della religione musulmana, ma a parlare con le persone per spiegare, per farsi capire, per tentare di allacciare un filo di dialogo. Giusto. Che, insomma, noi pensiamo, speriamo che si possa fare. Assolutamente, direi che va anche sottolineata questa questione, come la questione di dire siamo in guerra o di mettere tutto insieme l'Islam. Se posso dire, mi sembra abbastanza una follia. Cioè, il fatto che questi siano dei terroristi, che siano delle brutte persone, diciamo, è indubbio. Il fatto che non lo siano tutti i musulmani è indubbio anche questo, perché il semplice fatto che hai appena detto tu. Sì. Nel senso che sono 1,5 miliardi, se fossero 1,5 miliardi tutti gli brutti estremisti. E cattivi estremisti con i fucili che vogliono ammazzarsi, saremmo già morti tutti. Quindi non è assolutamente così. Sì. Ci sarebbe un musulmano per ognuno di noi con un fucile puntato contro. Esatto. Per fortuna non è così. A proposito di religioni, però, c'è un altro punto di vista interessante che avevamo selezionato, anche questo, prima che succedesse quello che è successo poi a Parigi, ahimè. Ed era un'associazione americana rivolta agli atei, che si chiama Atheist Mind Human Humanist Heart, che ha fatto un concorso di idee per individuare i 10 comandamenti di una religione laica. Della serie, bella la spinta delle religioni a comportarsi bene, a vivere in armonia e nella pace, quando diciamo non vengono mal interpretate, però proviamo a farlo senza bisogno di fede in un Dio, senza divisioni tra chi crede in una religione o nell'altra. Mandateci i vostri comandamenti. Sono arrivate migliaia di risposte, ne sono state selezionate alcune. Adesso, se le trovo, ve le voglio leggere, ma non le trovo. Quindi una sorta di regolamento laico, di regolamento morale. Di un regolamento di condominio, se vogliamo, sì, un condominio un'etica mondiale, sì, un'etica sì. mondiale che non parta dalla questione di avere un Dio, ma dalla questione che forse esistono delle regole di convivenza che valgono per tutti e sono anche interreligiose. Esatto, volevo leggervene alcune, però non le trovo. Dove le ho messe? Aspetta, se vabbè, insomma, ed erano anche, sarebbero l'oggetto anche del nostro gioco di oggi, perché vogliamo chiedervi, cari ascoltatori, quali sono i ma vostri meglio, possiamo anche partire da zero. Quindi non partiamo da quelle che sono stati dati, ma partiamo da grazie quelle... Carlo per l'assist, ma in realtà io li ho trovati. Ebbene sì, sono qua. Allora, vi leggo i primi tre: 800 24 00 24, poi ascoltatori voi aggiungete i vostri. I primi tre comandamenti selezionati da questa giuria, tra l'altro di 13 persone, come Gesù più gli apostoli nell'ultima cena. Ma come? È fuori dalle religioni, hanno fatto fuori questo dalle gioco religioni qua. E poi, so. Poi mi vai a prendere il 12+1. Questo lo scrive chi ha riportato l'articolo. Non lo so se il 13 fosse un numero casuale oppure no. È comunque un uomo che porta male, si che può porta dire male. O forse porta, non si sa, non si a cena sa, porta neutro, male diciamo. Sì, di mente aperta e disposto a cambiare le tue convinzioni di fronte a prove nuove, oppure cerca di capire cos'è, e nei limiti della probabilità, la verità, e di non credere a ciò che vorresti che fosse la verità. Il metodo scientifico, terzo comandamento laico, è il metodo scientifico, è il mezzo più affidabile per comprendere il mondo della natura. Questo è molto bello per quanto mi riguarda. Ascoltatori, 800 24 00 24, aggiungete i vostri comandamenti. Vogliamo dei comandamenti bellissimi. E nostri, diciamo. E cioè, l'idea più bella, il suggerimento più bello, come sempre, si porta a casa un piccolo premio, un piccolo riconoscimento, i biglietti per la mostra di Chagall. Adesso Carmelo La Lucella in mi guarda, pronto per far partire la prossima intervista. Vai. Inopportuna la paura per una cultura diversa. Chi su di me riversa la sua follia perversa. Arriva al punto che quando mi vede sterza, vuole mettermi sotto sto signorotto che si fa vanto del santo attaccato sul cruscotto. Non ha capito che sono disposto a stare sotto solamente quando fotto. Torna al tuo paese, sei diverso. Impossibile, vengo dall'universo. L'ha rotto perso, che vuoi che ti dica? Tu sei nato qui perché qui ha partorito una fica. In che saresti il migliore? Fammi il favore, compare. Qui non c'è affare che tu possa meritare. Sei confinato ma nel tuo stato mentale. Io sono lunatico e pratico dove cazzo mi pare. Io non sono nero, io non sono bianco. Io non sono attivo, io non sono stanco. Io non provengo da nazione alcuna. Io sì, io vengo dalla luna. Io non sono sano, io non sono pazzo. Io non sono vero, io non sono falso. Io non ti porto iella né fortuna. Io sì, ti porto sulla luna. E allora salutiamolo, Brahim Baia, uno dei giovani che fanno parte di questa associazione che si chiama Partecipazione e Spiritualità Musulmana, che nei giorni scorsi, prima ancora che succedesse quello che è successo a Parigi, se ne sono andati in giro per alcune città italiane con volantini per spiegare cos'è il vero Islam e per aprire un filo di dialogo con gli altri cittadini italiani. Buongiorno Brahim. Buongiorno. Buongiorno. Da quale città, in quale città ti trovi? Io la chiamo da Torino. Da Torino. Appunto, prima che succedesse quello che è successo a Parigi, ma insomma già con un'area un po' di tensione, di incomprensione tra culture, tra religioni, voi avete preso questa iniziativa di andare in giro per le città italiane a parlare con chi musulmano non è, per spiegare in cosa consiste forse il vero Islam. Come è andata in quei giorni? Cosa avete fatto? È andata bene, diciamo. L'iniziativa, come hai detto, è iniziata, è stata lanciata molto prima anche di questi terribili atti, che vorrei all'inizio, comunque prima di parlare dell'iniziativa, esprimere la condanna e esprimere le condoglianze a tutte le famiglie delle vittime, alla Francia intera, e esprimere anche la solidarietà a tutti i giornalisti che sono stati colpiti anche nella loro libertà di informazione e di stampa. L'iniziativa è stata lanciata in occasione dell'anniversario della nascita del profeta Muhammad, che è il profeta dell'Islam, e lo scopo era quello di farci conoscere ai nostri vicini italiani, dei nostri concittadini italiani, perché noi ci riteniamo a tutti gli effetti cittadini italiani, di farci conoscere attraverso la figura del profeta Muhammad, che abbiamo chiamato questa iniziativa, l'abbiamo chiamata a raccontare il messaggero della misericordia nelle piazze d'Italia. E per il momento, come siete stati accolti dalle persone? Cioè, siete riusciti ad aprire questo filo di dialogo? Sì? Benissimo, l'iniziativa si svolgerà durante tutto questo mese di gennaio. È stata organizzata la scorsa settimana a Padova, a Torino e a Cuneo, e diciamo, dai feedback che abbiamo ricevuto, sono tutti feedback positivi. La gente all'inizio si mostrava un po' reticente a aprire un dialogo con persone sconosciute, però bastava, perché abbiamo anche donato a questi passanti nei centri delle città, nelle piazze italiane, delle rose, delle candele colorate e dei volantini per farci conoscere. La gente ha accolto questo canale che abbiamo cercato, sì, di aprire con i nostri concittadini in modo positivo. Senti Ibrahim, ma secondo te, noi siamo convinti che esista l'Islam moderato, persone come te, credo insomma, e molte altre che hanno questa religione, professano questa religione, magari vanno in moschea, magari anche no, però intimamente portano avanti queste convinzioni, e che però non hanno nulla a che vedere con le forme dell'integralismo, tantomeno con la violenza. Esiste però, secondo te, invece un integralismo islamico? In che cosa consiste? Diciamo, all'inizio di tutto lei ha parlato di Islam moderato, io parlerei di Islam. Esiste l'Islam e esiste il terrorismo, che è un'altra cosa che non ha niente a che vedere con l'Islam. Quello che succede, quello che è successo l'11 settembre, quello che è successo in tutti gli attentati che ci sono stati, rappresentano un insulto alla nostra religione, un insulto ai nostri principi, ai nostri valori e agli insegnamenti del nostro messaggero. Queste persone, questi terribili, ignobili criminali, hanno detto di vendicare il profeta, ma non hanno fatto altro che insultare il profeta con il loro terribile gesta. Sicuramente ogni religione ha i suoi integralisti, ha i suoi fondamentalisti, ma questi sono degli individui che sono isolati all'interno delle comunità musulmane, non appartengono alla comunità musulmana. Come hai ricordato diverse volte, la comunità musulmana nel mondo siamo quasi circa 2 miliardi, in Italia siamo più di 1,5 milioni, siamo tutte persone pacifiche, persone in Italia, in Europa integrate, ci riteniamo italiani, europei, ci riteniamo parte integrante di queste società e vogliamo anche noi il bene di queste società. Ecco, ma... quindi gli integralisti non sono isolati, io per esempio non ne conosco nessuno. Però che impressione, Ibrahim, ti voglio chiedere questa cosa, che impressione ti ha fatto? Sì. Perché nelle immagini dell'assalto alla sede di Charlie Hebdo si sentiva chiaramente inneggiare ad Allah, no? Da parte di uno di questi terroristi. Che impressione ti fa il fatto che loro si richiamino direttamente al Dio della tua religione con questa forza? È un sentimento di rabbia, un sentimento di costernazione, un sentimento di frustrazione vedersi ogni volta proiettati, immersi in una realtà che non ci appartiene. Quel Dio che loro hanno nominato non è il mio Dio, non è Allah che io conosco, non è Allah che io prego. Quel Dio loro, se mai avessero un Dio, non è il nostro. E quindi noi ci riteniamo, come musulmani, come comunità musulmana in Europa, vittime anche noi, dopo sicuramente le vittime reali, vittime anche noi di questi ignobili atti. Le ricordo a tutti gli ascoltatori che 2 di questi 12 vittime sono musulmane. Il poliziotto che abbiamo visto sì, diciamo, finire in quel modo. Era un poliziotto musulmano, francese di fede musulmana, che è morto per difendere poi il diritto di Charlie Hebdo di dire la loro, di esprimere le loro visioni, anche se non li condividiamo. Certo, scusa Ibrahim, io condivido molto quello che stai dicendo e mi sembra molto importante ripeterlo e ribadirlo. La cosa che mi chiedo è, cioè la cosa che tu hai detto molto precisa, cioè queste persone hanno insultato il profeta. Un po' quello che molti si stanno chiedendo è come mai non ci siano tutti gli imam, tutta, diciamo, la comunità musulmana che a grandissima voce e molto precisamente dice: queste persone, nomi e cognomi, hanno insultato il profeta. Io posso assicurarli che almeno a Torino e nelle città in cui ho potuto seguire gli avvenimenti, tutte le comunità musulmane hanno espresso la loro netta condanna a questi atti, hanno espresso la loro netta distanza, se mai ci fosse mai stata vicinanza con questi terroristi. No, questo noi è vero. Come PSM abbiamo subito diffuso un comunicato, le altre sigle musulmane in Italia e in Europa hanno diffuso dei comunicati, l'Università di Al-Azhar, che è quella più l'imam di Parigi, per esempio, no, è sceso in piazza. L'imam di Parigi, l'Unione dei musulmani di Parigi. È verissimo, però tu sei stato più preciso, perché sì, tu non è che hai preso le distanze. Certo, secondo me, giustamente, punto, siccome si parla di religione e di credere, di avere fede, quindi diciamo da chi la fede la detiene in qualche modo, quindi da parte degli imam, affermare queste persone hanno insultato il profeta, cioè in qualche modo sono degli infedeli, sono all'esterno non solo della fede islamica, sono all'esterno dell'umanità. Cioè, una persona che uccide in quel modo a sangue freddo non appartiene all'umanità, tantomeno all'Islam, che è un messaggio di pace, di misericordia, di spiritualità, sicuramente. Però è più importante che sia all'interno. Una condanna senza se e senza ma da parte di tutti, e questa c'è stata questa volta, c'è stata anche le scorse volte. Purtroppo non sempre arriva nei media, diciamo, mainstream, non sempre arrivano queste condanne, purtroppo. Senti Ibrahim, sotto traccia poi, diciamo, e comunque diciamo anche legati alla religione, però ci sono a volte, si parla di si vedono queste differenze nel modo di vivere, no, da parte di chi segue la religione musulmana e chi invece in Occidente, pur seguendo magari la religione cristiana, però è più libero nei comportamenti. Parlo delle donne, parlo del rapporto per esempio anche con l'alcol, poter bere, la libertà dei costumi, il fatto di indossare o non indossare il velo. La domanda che ti voglio fare è questo, cioè il tuo aderire alla tua fede musulmana è compatibile pienamente al 100%, al 1000% con i valori della società, per esempio, italiana? Certo, io mi ritengo un cittadino italiano, sono cittadino italiano prima di tutto. Mi riconosco nei principi della Costituzione italiana, mi riconosco nei valori della Costituzione italiana che mi garantisce la mia libertà. E noi anche come musulmani abbiamo un'etica, non possiamo imporre a nessuno i nostri costumi sono per chi vuole aderirvi, per chi crede nell'Islam. Quindi per esempio una ragazza che non volesse indossare il velo potrebbe tranquillamente... Nella mia religione, nel mio Corano si dice non c'è costrizione in materia di religione, non possiamo pensare a una fede, a una religione nella costrizione. Quindi, senti, un'altra cosa, però, però un conto è chi appunto non aderisce alla religione, però chiediamoci anche invece chi aderisce alla religione, cioè quello che ci chiedono anche gli ascoltatori con gli sms è: per l'Islam una ragazza può andare a scuola, vestirsi come vuole, sposare chi vuole? Certo, tutti sono liberi di fare quello che vogliono. Se vogliono invece diciamo riconoscere nell'etica islamica, possono farlo, è quello che voglio dire, cioè nessuno li può costringere, il giudizio si aspetta a Dio, non sono io che giudico l'altro se è musulmano o meno. Okay. Uno dice che è musulmano e vuole comportarsi anche in maniera differente da alcuni testi dell'Islam, è libero di farlo, deve rendere poi conto a Dio se lui crede in Dio, non spetta a me, non spetta a un imam, non spetta alla nostra comunità giudicare gli altri, tantomeno i nostri fratelli, che sono liberi di comportarsi come vogliono. vogliono in una società libera come quella in cui viviamo. 800 24 00 24, cari amici ascoltatori, vogliamo anche i vostri interventi per commentare anche l'intervista che state sentendo a Brahim, un ragazzo che appartiene a questa associazione Partecipazione e Spiritualità Musulmana, che cerca di aprire un filo di dialogo con chi di religione musulmana non è, per farsi capire, per superare anche le differenze, le incomprensioni. L'ultima cosa che ti vogliamo chiedere è questa, Brahim: per quanto riguarda la rappresentazione di Maometto e queste vignette, per te proprio, non per la religione, è ammissibile che si possa raffigurare Maometto e che ci siano delle vignette che prendono in giro il profeta, così come ci sono vignette che prendono in giro il Papa o i nostri santi? Guardi, ognuno, secondo me, io credo, anche la mia fede, credo nella libertà. Il messaggero di Dio durante la sua vita è stato insultato, è stato offeso, è stato ingiurato, è stato esiliato, è stato combattuto, non ha mai risposto a queste offese con la violenza, con l'aggressività. Sempre ha risposto con il sorriso, con l'invocazione a favore di quelli che gli facevano del bene. Quindi per me ognuno è libero di comportarsi come vuole. L'unico limite che credo debba esserci è quello del rispetto dell'altro, visto che viviamo in una società plurale, una società multiculturale, per fortuna oggi in Italia e in Europa siamo così, bisogna anche rispettare la sensibilità dell'altro, credo. Questo credo che i giornalisti tutti devono anche avere un po' di responsabilità. La libertà c'è, ci deve essere, va garantita, non può essere attaccata, ma ci vuole anche un po' di sensibilità da parte dei giornalisti riguardo a una buona parte della società europea. Sicuramente non offendere qualcuno non è mai bello, soprattutto se lo scopo è quello di offendere, non è quello di far passare nessun messaggio. Ma secondo te le vignette di Charlie Hebdo erano solo offensive o erano anche di satira? Io non ho visto, non seguo Charlie Hebdo, non lo leggo, quindi non posso neanche commentare. Sì. Sicuramente quello che posso dire è condannare quell'attacco che c'è stato, che non può in alcun modo essere ammesso dalla mia religione. Non si può uccidere l'altro, anche se fossero stati blasfemi, non si risponde alla blasfemia con l'omicidio, che è un'ulteriore blasfemia. No, ma questo è verissimo, però la questione di una certa intransigenza nei confronti dell'ironia. Questo è vero, diciamo, non siete particolarmente ironici nei confronti della vostra religione? Il mondo musulmano, le invito a leggere cosa scrivono i vignettisti nel mondo musulmano, è molto sviluppata anche nei temi della religione. Però tra l'ironia magari delle volte si rischia di finire anche nell'offendere. Questa credo che è una sensibilità che bisogna tenere in conto. Sicuramente è la legge che stabilisce i limiti, non siamo noi come comunità o siamo noi come persone a stabilire dei limiti. La legge, questo è importante, è la legge che stabilisce, quindi c'è una libertà di espressione, ci sono delle regole da rispettare, c'è la diffamazione, c'è la privacy, ci sono queste cose qua, e sono solo queste le cose che devono entrare in azione. Il resto poi deve essere assolutamente libertà d'espressione. Grazie Brahim. Baia. Se posso fare un po' di pubblicità. Prego. Dipende a che cosa. Tutti i nostri ospiti fanno pubblicità, appunto, dipende che cosa, vediamo, poi ti facciamo pagare il biglietto dopo. Va bene, nessun problema. Solo per segnalare il nostro sito, perché vuole seguire anche il dibattito che si è creato dopo questi attentati, i comunicati che abbiamo diffuso. Il nostro sito è psm-italia.it. Siamo anche su Facebook, se digitate Partecipazione e Spiritualità Musulmana ci trovate, anche le foto delle iniziative di cui parlavamo. Sì, io sono già entrato e ho fatto mi piace. Grazie Brahim, buon sabato. Grazie, buon lavoro, arrivederci, auguri, buon anno a tutti comunque. Anche a te. Buon anno. 800 24 00 24, insomma, è questa la risposta che abbiamo cercato di dare alla domanda se esiste l'Islam moderato. Mi sembra che la chiacchierata con Brahim abbia dato delle risposte. Per me non ci sono dubbi che esista. Per me positive. Ma sai com'è. Ci fermiamo? Vai, torniamo tra poco. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Goder con te. saranno anche, ed è questa l'altra buona notizia che insomma siamo riusciti a scovare, la buona notizia che siamo riusciti a scovare questa settimana a proposito di un tema molto dibattuto, quello per esempio dei profughi in Italia, del fatto che, come qualcuno sostiene, l'Italia non può aprire le porte perché non c'è più spazio per nessuno. Lavoreranno i profughi, cioè le persone in attesa di ricevere lo statuto di profughi possono essere coinvolti in progetti di lavori socialmente utili per i comuni italiani. Insomma, esatto, in attesa, lavori socialmente utili. Se no, no c'è certo. Subito un allarmismo. Lavoreranno i profughi, loro lavorano, e, noi loro lavorano e noi non lavoriamo. Siccome ricevono un piccolo sussidio in quanto status di richiedenti diritto d'asilo, in cambio di questo, di questa tutela, è prevista questa cosa. Vedi che noi italiani siamo bravi anche a fare delle regole, a inventare delle soluzioni. Poi però, tu lo sapevi questa cosa, io no, non viene molto applicata evidentemente. A Asti ci sono riusciti, esatto, lo stanno facendo. E noi salutiamo il sindaco di Asti, buongiorno. Buongiorno a tutti. Fabrizio Brignolo o Brignolo? Brignolo, perfetto. Che ci racconta come perché state portando avanti questa cosa qua, che ripeto, credo che siamo delle poche città nelle quali questa previsione in effetti siete riusciti a metterla in pratica, sindaco. Sì, noi abbiamo aderito al progetto dello SPRAR, che è il Servizio di Protezione Richiedenti Asilo e Rifugiati, che è un servizio del Ministero che si fa carico con questi fondi destinati ai richiedenti asilo di accogliere queste persone. Ad Asti ne abbiamo accolte 40, sono alcune persone singole, alcune sono famiglie, abbiamo fatto un bel lavoro perché le abbiamo distribuite in diversi alloggi in città, quindi non c'è neanche l'effetto massa critica, insomma, ecco, sostanzialmente la città non si accorge nemmeno che c'è stato questo arrivo di queste persone. Cioè, se ne accorgerà nel momento invece che inizieranno a lavorare, a fare delle azioni, sì, a favore di tutta la città, questo mi sembra molto buono. Diciamo questo, se ne stanno accorgendo i nostri servizi, i lavori pubblici, i nostri servizi culturali, perché queste persone, queste 9 persone stanno lavorando per il comune con questi ruoli. Ovviamente con i tagli che abbiamo noi amministrazioni locali non è che questi tolgono lavoro a qualcun altro, nel senso che se non ci fossero questi, quei lavori lì non li farebbe nessuno, perché non avremmo... È giusto chiarirlo, è giusto, perché magari, come diceva Carlo, qualcuno potrebbe interpretare male, ma come c'è lavoro per loro, tolgono lavoro ad altri, invece non è così, si tratta di, per esempio, che tipo di attività possono essere svolte da queste persone? Sono nelle nostre squadre dei lavori pubblici, quindi prevalentemente fanno lavoro di manutenzione nelle aree verdi, sulle strade, fanno accoglienza alcuni ai musei, quelli che lavorano nei servizi culturali, poi oltre a questi che sono 9 che lavorano per il comune, ce ne sono altri 11 che fanno attività di tirocinio in cooperative, in aziende private. Insomma, il tentativo è stato quello di gestire queste persone non come avviene normalmente, concentrandole o in un campo o in un fabbricato unico, no? Che sì, diventano normalmente un problema, ma di considerarle come 40 persone che fanno parte di nuclei familiari che cercano di inserirsi nel nostro tessuto urbano. E questo, diciamo, il compenso, il compenso che gli viene riconosciuto, questi 300 euro al mese che gli vengono riconosciuti, non vengono pagati dal comune di Asti, ma vengono attinti da quel fondo che il Ministero destina a questo. Sono quelle che la leggenda metropolitana dice che danno 30 euro, non so se avete sentito anche voi, credo, no? Sì. La leggenda metropolitana dice danno 30 euro al giorno ai profughi e niente agli italiani. 30 euro non è la somma che viene data ai profughi, è la somma che il Ministero pro capite per i profughi destina a questo progetto, quindi ogni poi progetto viene gestito diversamente. Qui ad Asti il progetto che è stato accolto e finanziato dal Ministero prevede questa formula. Però ci sono anche dei fondi europei, vero? Perché il progetto, i fondi SPRAR, sì, sono risorse europee. Esatto. Senta, sindaco, resti con noi perché vogliamo farle ancora qualche domanda, però abbiamo il traffico, dobbiamo dare informazioni sulle strade e torniamo subito. Si può fare. Cronache da un paese migliore. 800 24 00 24, cari amici ascoltatori, la buona notizia di oggi, sabato, su Radio 24 è questa: 9 profughi a lavori di pubblica utilità per la città di Asti, cioè in cambio di questo piccolo sussidio che ricevono. Scusi, sindaco, stiamo parlando col sindaco di Asti, Fabrizio Brignolo. Si tratta di persone che hanno richiesto, cioè lo stato di rifugiati, richiedenti diritto d'asilo. Ecco. Esatto, sul procedimento di accertamento della sussistenza di questo status. Ma perché nel momento in cui invece venisse riconosciuto il loro status di rifugiati, a quel punto loro continuerebbero a lavorare o no? Continuerebbero a lavorare, certo. Continuerebbe lo SPRAR, fa riferimento, che è appunto la sigla di questo tipo di progetti, e fa appunto riferimento, sia la R sta per richiedenti, la prima R, cioè quindi lo SPRAR è per i richiedenti e coloro che invece sono già, e coloro che sono i rifugiati, quindi fino a che non viene riconosciuto lo status di rifugiato sono richiedenti. Se invece venisse fuori che qualcuno di questi anche dalle informazioni che non dovrebbe capitare, però se venisse fuori qualcuno di questi invece non ha i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato, verrebbe rispedito. Senta, siccome abbiamo sentito spesso in alcuni casi, insomma, la cronaca di centri dove stavano ospiti richiedenti diritto d'asilo che ci sono state rivolte, proteste per le condizioni in cui venivano tenuti, e qualcuno diceva anche semplicemente perché volevano stare in condizioni migliori, si è parlato di alberghi, cioè tutta il discorso che fa il leader della Lega Salvini in alberghi a 5 stelle, richiedenti diritto d'asilo eccetera. Per la sua esperienza, non le voglio chiedere di questo, che magari non è accaduto a Asti, è accaduto altrove, ma qual è stata la reazione di queste persone alla proposta di andare a lavorare? Cioè, è stato facile coinvolgere questi profughi in questi lavori o c'è una resistenza? No, qui il rapporto è stato molto costruttivo, e devo dire la scelta probabilmente giusta è stata proprio quella di non ghettizzarli o chiuderli in un albergo o in una struttura unica, ma di dare a ognuno, e soprattutto alle famiglie, perché qui c'erano molti nuclei familiari con bambini, la possibilità di costruire un clima familiare, quindi a ciascuno un alloggetto. Questo ha fatto piacere ovviamente anche agli astigiani, perché come sappiamo c'è la crisi dell'edilizia, molti sono gli alloggi vuoti, sfitti. Il fatto che con questi fondi governativi si sia pagato qualche canone, si paghi il canone d'affitto a qualche proprietario di alloggio in città che così lo può riutilizzare, ha fatto piacere anche agli astigiani. Questi soldi che loro guadagnano ovviamente se li spendono nei negozi astigiani per comprarsi di che vivere, e quindi diciamo si è dimostrato che se le cose vengono gestite riescono a essere governate in maniera efficace. Devo dire che oltre a questo progetto importante, che è stato gestito bene anche perché c'è stata la calma per organizzarlo, subito dopo poi sono cominciate ad arrivare anche altrettanti, se non di più, profughi del cosiddetto Mare Nostrum, cioè questi che sono arrivati un po' assolutamente non preventivati a ondate. Anche in questo caso però siamo riusciti, devo dire, con un accordo con la prefettura, intanto non concentrarli tutti sul territorio del comune capoluogo, ma si è usato tutto il territorio della provincia, anche qui evitando concentrazioni che potessero creare. Insomma, volendo si può pensare anche. Se si gestiscono, si riescono a governare. Si può pensare ai profughi anche come risorse, perché no, per le nostre comunità. Una domanda ancora da Carlo. No, una domanda che arriva da un SMS che mi sembrava curiosa. Ci chiedono: i lavori socialmente utili li potrebbero proporre a quei soggetti che non possono pagare le tasse comunali? Allora, il discorso che facevo prima è questo: queste attività non sono sostitutive di altre, nel senso che noi ormai siamo, ma non solo il comune di Asti, un po' tutti i comuni, in condizioni tali per cui i soldi li usiamo tutti, poi cerchiamo di integrare dove non ci arriviamo coi soldi comunali, quindi coi soldi. Ma è possibile farlo anche per queste persone che non hanno pagato le tasse comunali? Con i soldi delle tasse, cioè le tasse comunali, diciamo, concorrono al nostro bilancio. Sì. No, ma un momento, la domanda non è sulle tasse comunali, è sul fatto io non riesco a pagare le tasse comunali perché non ce la faccio economicamente. Posso invece che pagare le tasse comunali fare un lavoro socialmente utile? No, perché le tasse comunali farebbero diminuire il bilancio comunale, che è quello che dicevo prima, no? Quindi queste sono, come dire, prestazioni che noi otteniamo, in questo caso grazie a questi fondi statali che pagano queste persone. Ricordiamo forse che sono soldi della comunità europea, che va ricordato, perché si pensa sempre che l'Europa faccia delle cose inutili o brutte, invece in questo caso sono soldi della comunità europea. Ci dai i soldini anche per far lavorare i profughi. Noi ringraziamo. Noi abbiamo anche un'altra Sì, veloce, che siamo per chiudere. Sindaco, sì? No, dicevo che oltre a questi 9 abbiamo anche 5 o 6 che sono invece detenuti del carcere della città di Asti, che escono e vengono anche lì a titolo di volontariato, quindi questi non sono pagati proprio neanche dallo Stato, dall'Europa, ma come forma di reinserimento, però anche loro vengono a lavorare gratuitamente per il comune nella nostra area verde, del nostro servizio di manutenzione. Quindi, grazie sindaco Fabrizio Brignolo, il sindaco di Asti, grazie per essere stato con noi, buon sabato. Insomma, questa era la buona notizia: profughi a lavori socialmente utili, almeno ad Asti, volendo si può, insomma, ecco, speriamo che l'esempio di Asti lo seguano anche altre città, invece magari di stare lì a chiacchierare, di fare anche un po' e di spendere questi fondi europei, pensa un po'. 800 24 00 24, chiamateci anche per dirci quali sono i vostri comandamenti della religione laica, come abbiamo chiesto prima, in cambio vincerete i biglietti per la mostra di Chagall. Abdul da Forlì, buongiorno. Buongiorno, io volevo dire questo, che veramente tutto quello che abbiamo sentito nel vostro dibattito in questi giorni, prima di tutto solidarietà alla Francia, a tutto il mondo che sognano la libertà, l'Islam moderato per me non esiste, non c'è. Ma lei è islamico, di religione islamica? Sì, io sono di fede musulmana. Quindi lei è un estremista? No, l'estremista io non sono. Lei è l'unico musulmano moderato al mondo. Moderato? Esiste come? Esiste, no, lei, Abdullah? No, perché io da 20 anni che vivo qua. Sì. Forse sì, io ero nel mio paese incastrato sempre in questa idea, forse non sarò come sono io. È quello che volevo dire. Cioè, lei si sente, lei si sente in minoranza come islamico moderato, questo vuol dire? Molto minoranza. Vabbè, ma questo, scusi, già minoranza vuol dire che esiste, comunque. Perché se no. Io voglio arrivare al punto del mio ragionamento. Sì. Perché quanto dicono che sono moderato, perché io penso che non hanno la forza di applicare ciò che vogliono fare. Perché noi abbiamo visto in Africa occidentale, in Mali, recentemente con la caduta di Gheddafi, una parte del paese musulmano che hanno recuperato le armi, abbiamo visto cosa hanno fatto, perché loro... sì, ma a parte la storia però... Erano moderato. Prima potevano dire che erano moderato, ma quando hanno trovato la forza di fare ciò che vogliono fare, allora la moderazione non esiste. È quello che voglio dire. Abdul, io ti ringrazio e adesso voglio sentire che cosa ne pensano gli altri ascoltatori di questa tua posizione, e vediamo, insomma. Era solo la prima telefonata. Renata da Verona, buonasera. Buongiorno, sì. Buonasera. Sì. Ecco, io le volevo portare la mia esperienza come volontaria, che da 30 anni faccio la volontaria. Dove? Che ho avvicinato moltissime famiglie, siamo un'associazione tra l'altro, e famiglie islamiche, ecco, e le posso assicurare che c'è molta difficoltà di integrazione. Guardi, tra l'altro, per inciso così, stiamo ancora smaltendo l'integrazione con i nostri connazionali. Mm. Che associazione è la sua, a cui, la quale lei fa volontariato, come si chiama, se ce lo vuol dire? ARPAD. E poi ho un'altra associazione, la Seconda Primavera, che vorrò parlare con in un'altra occasione. Mm. Però, tra l'altro non la sentiamo neanche benissimo, la signora Renata. Non ho capito in che senso ci sono queste c'è già difficoltà. Un problema di integrazione con quelli del sud, sta dicendo? Sì, certo. Per cui dobbiamo ancora smaltire questa e dobbiamo cercare di vivere con queste persone, gli islamici, che è difficilissimo, guardi, proprio a livello di abitativo. Guardi, io ho sentito una trasmissione di Giovanni Minori. Renata, dobbiamo fermarci qua. Tra l'altro io non ho capito quasi nulla di quello che ha detto Renata. Beh, perché si sentiva male. Sì. Forse non solo per quello. 800 24 00 24. Torniamo dopo il giornale radio. Marcello da Roma è già in linea col suo comandamento. Lo sentiamo però dopo il GR. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Siete ancora. Tu dimmi quando non guardarmi adesso, amore, sono stanco, perché penso al futuro. Tu dimmi quando siamo angeli che cercano un sorriso. Siete ancora, ancora. E questa è Si può fare, anzi questo è il nostro Si può fare in musica, anzi questo è Pino Daniele con Quando, che così vogliamo ricordare. Il nostro Si può fare in musica, ovvero vi ricordiamo che potete mandarci, anzi questa è la canzone scelta dal nostro ascoltatore Filippo Moreni, ricordiamo, e potete consigliarci, segnalarci delle canzoni che volete, che secondo voi sono il vostro Si può fare in musica, mandandocele ai nostri account, quindi di Facebook di Si può fare Radio 24, oppure di Twitter a Si può fare 24, oppure ai nostri account personali. Il mio è @CarloGabardini e il mio è @Ale Maurizi. Allora, intanto dico altri due o tre comandamenti. Adesso li che diciamo. Bello, con sotto Pino Daniele, scusami, Pino Daniele, così. Sì. Ho un po' di emozione. Sì, ci mancherà sicuramente tantissimo Pino Daniele. Abbiamo lanciato oggi questo gioco con gli ascoltatori, perché l'associazione Atheist Mind Humanist Heart americana, rivolta agli atei, ha a sua volta lanciato un concorso. Mandateci i vostri comandamenti per una religione atea, una religione laica, per il buon vivere, la convivenza pacifica, lo star bene in fratellanza, diciamo così, vivere in saggezza. I comandamenti laici, ne ho letti tre prima, gli altri tre sono questi: ogni persona ha il diritto di decidere sul proprio corpo, e questo mi sembra un punto importante. Poi, per quanto riguarda Dio, non è necessario che ci sia Dio per essere una buona persona o per vivere una vita piena di significato. Questo è utile proprio per gli atei, soprattutto, perché altrimenti come faremmo? Pensa sempre alle conseguenze delle tue azioni e riconosci che devi assumerti le responsabilità per ognuna di esse. Questo è il sesto comandamento. Bellissimo. Ascoltatori, questo sesto è bellissimo. All'800 24 00 24 aspettiamo i vostri. Ne posso dire riferimento. Uno anch'io bellissimo, sì? di questo ringrazia sempre la mamma. Decina dei comandamenti. No. Mi piace molto il decimo comandamento, che è: lascia il mondo migliore di come lo hai trovato. Pure potrebbe essere: sorridi più spesso, che ne so. 800 24 00 24. Abbiamo Marcello da Roma, che è in linea già da prima. Buongiorno Marcello. Io semplicemente, buongiorno, mi sente? Sì, forte e chiaro. Sente? Certo. Buongiorno. Voglio semplicemente dire: l'altro sei tu. E significa tutto il resto, secondo me. Cioè sarebbe come dire un comandamento che li riassume tutti, secondo Masco? No, vabbè, non voglio essere così ambizioso, insomma. No, c'era una canzone. C'era una canzone che diceva: gli altri siamo noi, giusto? È uguale, certo. Cioè, gli altri. Ma però mi sembra più bello come lo dice lei. Perché vuoi vivere in un ambiente migliore, o vuoi rispettare la società perché questa sia migliore. L'altro sei tu, quindi fai tu quello che devi fare e vedrai che gli altri si comportano conseguentemente. Molto bene, accettiamo questo bellissimo comandamento. L'altro sei tu. Grazie Marcello, grazie. E lo iscriviamo il primo di oggi nell'elenco delle proposte degli ascoltatori. Poi vediamo chi si aggiudica i biglietti per la mostra di Chagall. Mattias da Parma, buongiorno, benvenuto. Buongiorno. Io chiamavo per quanto riguarda il tema del islamismo moderato o non moderato. Sì. Diciamo che nell'ambiente in cui nasce l'Islam, io ho abitato in Afghanistan per oltre un anno come civile, aiutando la coalizione internazionale per i lavori che poteva fare all'interno delle basi, essendo a contatto tutti i giorni con gli abitanti del posto, e l'ambiente in cui si sviluppa chiede facilmente l'Islam è comunque in zone molto povere, in cui c'è un tasso alto di analfabetizzazione, in cui le persone si affidano alla religione affidandosi una speranza, un po' come il nostro cristianesimo al tempo del Medioevo, in cui bastava far leva su certi punti che la gente a occhi chiusi si buttava. Era successo, io ho abitato nel 2009, tra l'altro l'anno in cui è stato fatto un attentato molto forte a due contingenti italiani a Kabul, e era semplice che appunto i talebani al tempo prendessero un capo famiglia con 8 figli, perché quella è la media, 7-8 figli, che non aveva i mezzi economici per mantenerli, gli offrisse del denaro a vita, gli dicesse: io ti mantengo la tua famiglia, tu non ti preoccupare, il paradiso per te è certo, perché questa è la guerra santa. Lui davanti a questa offerta, davanti sia ai soldi per la famiglia che alla speranza del paradiso, chiaramente andava a occhi chiusi. Ma questo non vuol dire che lui sia un terrorista. Sì, sì, è chiaro, diciamo, è stato detto molte volte, la Chiesa, in questo caso non la Chiesa, ma insomma la religione come istituzione totalitaria, cioè che ti dà da mangiare, ti aiuta a sopravvivere e ti dice anche quello che devi pensare, quello che devi fare. Mattias, una curiosità, che lavoro facevi in Afghanistan? Io lavoravo per un'azienda italiana a contratto, praticamente esterna, che forniva servizi ai contingenti NATO e UN, e forniva appunto servizi a 360 gradi in loco, facendo anche costruzioni e opere edili, e questo comportava lavorare con la gente locale, trovare fornitori sul posto. Tutti i giorni ero all'interno della città e poi portare prodotti all'interno delle basi. Ma secondo te esiste l'Islam moderato anche per esempio in un paese come... Diciamo che i signori che adesso si professano ISIS piuttosto che Al-Qaeda, loro proclamano più che l'Islam in sé i califati, che sono più situazioni politico-religiose che religiose in sé. Pertanto credo che in una cultura molto arcaica come loro vivono, in zona del Nord Africa, dello Yemen, della penisola araba, l'Afghanistan stesso, sono comunque posizioni in cui gli uomini, le donne sono un po' come erano da noi nel Medioevo, la donna... Mi sembra giusto questo paragone, anche perché ricordiamo che l'Islam, la musulmana, è l'ultima in ordine di tempo di apparizione delle tre religioni monoteiste. È la più giovane. Piccola citazione così storica per qualcuno che se lo fosse dimenticato. C'è un ascoltatore su Twitter, grazie Mattias, che invece Abdellah Kabakebi che mi scrive: cercate su Facebook musulmano milanese imbruttito, sito ironico fatto da musulmani, ed è divertente. Sono andato a cercarlo, musulmano milanese imbruttito. Chi conosce il milanese imbruttito sa di cosa sto parlando. È un sito, certo, nel quale c'è la caricatura proprio dell'atteggiamento del milanese su tutto. E questo è questo: il musulmano milanese imbruttito grida all'Akbar quando trova parcheggio sotto casa la sera dopo il lavoro. Non è male. Oppure, dove va a pregare il musulmano milanese imbruttito? Ovunque, purché ci sia parcheggio. L'ossessione, sempre l'ossessione del parcheggio. 800 24 00 24. Ce la facciamo fare anche Stefano in 30 secondi, un minuto, da Bergamo? Dipende da Stefano. Stefano, buongiorno. Buongiorno, spero di sì. Allora, io sono un ateo e siccome l'essere umano è dotato di libero arbitrio, sì, che parlare di comandamenti o di leggi e invitarlo alla trasgressione, per cui io proporrei, più che dei comandamenti, due suggerimenti, due soli. Il primo è non aver paura di amare, di essere amato. Il secondo, dubita sempre di possedere la verità. E quale dei due vogliamo iscrivere per il concorso? Perché poi quando la nostra giuria ne deve scegliere uno. Le consiglio il secondo. Così, consiglio. Accetta il consiglio. Quindi Stefano da Bergamo sceglie per giocare, ripeta? Dubita sempre di possedere la verità. Perfetto, perfetto. Questo, è anche, questo è molto bello. Dubita sempre di possedere la verità. Lo iscriviamo, grazie Stefano. Prego. Al concorso stiamo scrivendo tutti e due. Sembriamo due scriba. Due scriba che però, diciamo, due cretini che prendono appunto. In radio non è una bella immagine, nel senso che due persone che scrivono in radio non sono esattamente la cosa più radiofonica che esista. 800 24 00 24. Continuate a chiamarci per raccontarci il vostro comandamento per una religione laica. Poi alla fine vi diremo quale, a giudizio insindacabile della redazione, che oggi è ampia perché siamo in tantissimi, e chi vince i biglietti di Chagall. Traffico. Si può fare. Cronache da un paese migliore. To be like that, I guess you're insecure. If you say what's on your mind, I might answer sure. So I walk a little slower, and I try to catch your eye. Sometimes it's so hard to see the good things passing by. There may never be a sign, no flashing neon light, telling you to make your move when the time is right. So why not take a crazy chance? Why Not, che è anche il titolo di questa canzone di Hilary Duff, è anche il nome di un bar di Viareggio, il Why Not Caffè, uno dei bar che in questo periodo stanno rinunciando a tenere le slot machine all'interno del bar. È il tuo bar. È il mio bar, tra l'altro è vicino a casa mia a Pisa, casa dei miei, insomma di mia mamma. Ah no, io lo dicevo senza sapere questo, ovviamente. Beh, sono di Pisa, questo lo sai, Viareggio. No, questo lo so benissimo, assolutamente. Ma dicevo che è il tuo bar perché giusto. Giustamente, certo. Questa battaglia a noi piace seguire, perché questa cosa delle slot machine, le slot house, stanno cambiando la morfologia delle nostre città e anche la morfologia dei bar. Infatti questa è una storia bellissima, ed scusami. È interessante capire perché ci sono molti baristi che stanno rinunciando quindi a un guadagno facile per qualche cosa, per qualche motivo. E noi abbiamo convocato la titolare del bar, Azzurra Cerri. Buongiorno. Ciao, buongiorno. Ciao. Sei nel tuo bar in questo momento? No, sulla coda perché sono un pochino influenzata. Ma, aia. Ma noi volevamo il collegamento dal nuovo angoletto. Volevo sentire il rumore del caffè che esce. Esatto. Io volevo sentire i libri che venivano sfogliati al posto delle slot machine, però non voglio anticipare niente. Era uno spoiler sulla storia. Beh, questo che adesso ci racconterai, che è bellissima. Esatto, c'è una libreria adesso al posto della slot machine. C'è nell'angolino dove c'erano le due slot. Ci ho messo la libreria e con delle mensole, con parecchi libri. Hai messo dei libri tuoi o dei libri che ti ha dato qualcuno? Allora, no, ho messo libri miei inizialmente, perché inizialmente pensavo fosse un angolo, cioè non avrei mai pensato che facesse tutto questo clamore. Ma dei libri sul poker? Dei libri sul gioco d'azzardo? No, niente, sul gioco niente, assolutamente. Al massimo ricette di cucina. Perfetto. Il massimo della trasgressione è quello. Sì, è quello. Ma raccontiamo la storia. Raccontiamo la storia, che è bellissima, diciamo, da come parte. Io 2 anni fa sono rimasta sola al bar. Il mio socio, ho rilevato l'attività da sola. E lei è cominciata la lotta per togliere le macchinette, perché comunque attirano, cioè, clientela magari non gradita. In più mi sono entrati ripetute volte dentro il bar, o anche hanno tentato di entrare per fare dei furti. Sì. Ma questo è uno dei motivi che ti ha spinto anche. Sì, questo proprio è stato il motivo principale, diciamo, inizialmente per questo motivo, perché ero stufa di trovare ogni mattina la porta forzata, o proprio sfondata, macchinette sfondate. Ma riuscivano poi a rubare l'incasso delle macchinette? La prima volta sì, hanno fatto proprio piazza pulita di tutto. Però secondo me c'è un motivo più bello, che è il fatto che a te questo angoletto buio, dove le persone entravano con lo sguardo basso solamente per giocare alle slot, senza neanche scambiare una parola, se non per chiederti in prestito dei soldi per poter continuare a giocare. Sì, per giocare, se oppure prendiamo le macchinette perché non paga, allora chiamiamo questo, controlliamo, guardiamo. Io non ne potevo più. Esaurita, allora ho cominciato a cercare di toglierle. Sì. Ho chiamato il gestore. Ho parlato col gestore civilmente inizialmente, ma non c'è stato niente da fare. Ecco, questa parte è interessante. Perché non c'è stato niente da fare? Perché non è possibile liberarsi delle macchinette. No, allora, io il contratto che avevo io era praticamente impossibile. Comunque c'era un contratto firmato sia da me che dal mio vecchio socio, con clausole molto scritte magari nel contratto che noi non avevamo letto. Sbaglio nostro probabilmente inizialmente. Comunque, dopo queste macchinette era impossibile toglierle. Perché c'è un obbligo di tenerle per un minimo di anni. Però c'è una multa di 5.000 euro. Esatto. No, sì. Scusa, volevo spiegare questo ai nostri ascoltatori. Certo. No, io avevo una multa, avrei dovuto pagare 5.000 euro. 1.000 euro per ogni anno. E per 5 anni eri obbligato a tenerle, quindi loro ti hanno detto se le tenga. A questo punto che cosa succede? Io ho cominciato a spengere le macchinette. Ecco. A riempirle quando erano vuote, quando mi chiamavano non rispondevo, in modo che passassero. Cioè le stavi sabotando praticamente, sì, tu stessa. Sì. Scrivevi... A quel punto non mi fregava più niente del guadagno, cioè ero proprio stufa. Poi quest'estate ho litigato con un cliente. Comunque un cliente che davanti alle macchinette stava perdendo, si è arrabbiato, e a quel punto mi ci sono messa proprio. Si è arrabbiato con la macchina, cioè ha preso a calci la macchinetta o con te? Sì, no, con me. Perché? Cerchiamo la finanza, sono finte. Ah, perché pensava che ci fosse un trucco da qualche parte. Vabbè, l'esasperazione quando magari ti stai giocando tutto lo stipendio. Appunto. Siccome ho detto, questo è un bar, cioè il lavoro del bar è fare caffè e cappuccini e parlare con i clienti, non è stare dietro alle macchinette. Per me, per mio avviso, molto per come giusto la vedo io, ho detto, se per favore si può accomodare fuori, comincio a parlare civilmente. E di lì è cominciata la guerra contro il gestore per levarle, perché ero decisissima. Perché la cosa interessante è che tu chiamavi e questi non ti hanno dato nessuna corda. Nel momento che tu hai spento le macchinette, hanno iniziato a chiamare loro, giusto? Hanno iniziato a chiamare loro, però io non rispondevo perché volevo che passassero. Certo. Che passasse qualcuno. Infatti anche noi, Azzurra, quando ti abbiamo cercato non ti trovavamo mai, è sempre il telefono staccato. Sarà per quello. Capito, perché ormai non rispondo più a nessuno. Non risponde a nessuno finché uno non viene nel tuo bar a prendere il caffè, diciamo. Appunto. No, però è interessante questo fatto che appunto loro iniziano a chiamare loro dicendo, ma che succede? Noi non stiamo guadagnando più niente, le tue macchine non fatturano, a questo punto vengono loro nel tuo bar, giusto? Sì, potenzialmente le chiamate erano tipo, sai Azzurra, le devi tenere accese perché così rischi la multa, noi veniamo, le sai quali sono i contratti, no? Con questa voce qua, i primi tempi. l'ultima chiamata, proprio io penso che loro fossero stanchi di me, perché io veramente, ma li chiamavo, a volte li insultavo, io le vostre macchinette le butto in mezzo all'Aurelia. Cioè, esasperata, Azzurra, proprio non ne potevi più. Sì, ero proprio stanca. Già uno è stanco di tutto quello che succede intorno a lui, normalmente, anche comunque parlare sempre con i clienti, comunque tutte le cose che riguardano un bar. Io, per me le macchinette erano proprio una cosa che più mi urtava. E a quel punto loro sono arrivati e ti hanno permesso di liberartene? No, prima è successo che sono andata addirittura all'ufficio che rilascia le licenze per le attività, chiedendo a loro di revocarmi la licenza. Tu, guarda, a me non me la levano, il gestore non mi leva la licenza del bar addirittura? No, la licenza del gioco, macchinette. Hai cercato di aggirare la questione della concessione con la licenza. Ci togliete la licenza, così mi devono per forza staccare. Perfetto. E cosa ti hanno risposto? Io pensavo che fosse una cosa semplicissima, che beh, vabbè, se te la revochiamo, invece mi hanno detto che no, è una cosa complicata, lunga, è un po' difficile. Tu volevi rinunciare alla licenza, ma non era possibile. Quindi lì ero demoralizzata, ho detto qui non si possono più levare, e ho cominciato a tenerle spente sempre da agosto, settembre, ottobre, novembre. A novembre mi hanno chiamato dicendo proprio che avevo rotto le scatole, una cosa così, che non rispatto i patti, che è una perdita di tempo e di soldi, perché tanto io ero così, che mi avrebbero levato le macchinette. E tu a quel punto hai fatto un salto di gioia, hai urlato all'Akbar, come... Sì. Infatti ero dentro il bar, una gioia infinita, come se mi avessero detto, non so, il regalo del 2015 è stato quello per me. Però scusami, a questo punto tu non hai pagato una lira di multa, loro sono venute, le hanno caricate, le hanno portate via dicendo lei non è in grado di fare la gestrice di macchinette, grazie, arrivederci. No, lo dico questo per tutti quelli che vogliono liberarsi delle proprie macchinette, che forse il sistema è questo. Sì, questo. È lungo, perché io 2 anni ci ho messo, però alla fine penso che sia questo, perché a loro comunque... fondamentalmente tenere macchinette ferme che non guadagnano, certo, alla perdita di soldi. Azzurra, adesso, no, ripensandoci a tutto questo, ce l'hai appena raccontato di nuovo, che pensieri fai a proposito di quell'angolo del tuo bar dove prima c'era una slot machine? Adesso vai nel tuo bar, a parte oggi che sei a casa, è illuminato adesso, proprio quando si entra, ma anche io ho notato i clienti entrano e dicono ma oddio, c'è più spazio, c'è più luce. Ho tolto le macchinette, ho messo magari un tavolino bianco che dà un pochino più luce. Luce, la parola luce è bellissima. Ma scusa, però adesso non per riportarti di nuovo, quanto incasso hai rinunciato? Quanto ci guadagnavi con queste macchinette all'inizio? Circa 700-800 euro al mese, insomma, un pochino sì. Beh, però... Poi dipende, perché io col gestore che avevo prima, privato, il guadagno, diciamo che era chiaro, era abbastanza. Da quando avevo comunque quest'ultimo gestore non ci ho mai capito niente, io penso fondamentalmente di averci solo rimesso. Sì. Il mio pensiero è questo, perché non ci ho mai capito quanto sono guadagnato una sola volta. Veramente. Però comunque... è mai capitato che qualcuno ti chiedesse adesso se c'è la slot machine, perché prima c'era, dove l'hai messa? No, che qualcuno... addirittura è successo che qualcuno che veniva a giocarci mi ha portato dei libri. Qualcuno che prima veniva a giocare adesso ti ha portato dei libri. È stato contagiato dalla tua scelta. Sì, bello. Sì. Beh, questo è buono, quindi non hai perso clientela, giusto? No. Non hai persone che che non vengono più al tuo bar perché c'è il bar di fronte che ha le macchinette, perché questo anche, diciamo, per un gestore di bar lo vogliamo dire per rassicurarlo, insomma, che forse non si perdono clienti, o perlomeno se se ne perdono se ne guadagnano altri. Adesso Azzurra, il caffè che sapore ha lì da te? È migliore. Per me è migliore, io lo faccio più tranquillamente, quindi sicuramente viene migliore. In bocca al lupo, grazie. Grazie mille. Grazie. E auguri anche per la malattia, perché oggi è a casa invece che essere al bar, perché non sta bene. Noi volevamo essere lì nel bar. Sì, un po' sì, l'idea del bar il sabato mattina, così. A parlare e questo, di calcio. Insomma, era Azzurra, la titolare del Why Not Caffè di Viareggio. Una storia tra le tante, però è interessante capire, l'abbiamo appena sentito, perché ci sono tanti, non è una storia isolata quella di Azzurra, baristi che rinunciano a un guadagno, evidentemente per delle ragioni. È interessante capire queste ragioni. No, 0024. È interessante vedere questa sorta di disubbidienza civile, se vogliamo, per raggiungere uno scopo e scavallare una burocrazia che a volte è semplicemente lì per far sì che tu le macchinette le tenga. Comandamento semplice, ci scrive un ascoltatore al 3422 8666. Ah, ma il prossimo tuo tuo come te stesso. Guarda che ci arrivo, perché nella lista che è sparita ma adesso l'ho ritrovata, il settimo comandamento della lista Atheist Mind Humanist Heart è proprio questo: tratta gli altri come vorresti che gli altri trattassero te e come vorrebbero essere trattate. Pensa sempre al loro punto di vista, che è quello di prima. L'altro sei... Sì, è un po' l'altro di prima, diciamo, però, e si vede che è un'associazione americana di atei che quindi ci tiene a non usare le parole mutuate così precisamente invece da altre religioni, quindi ama il prossimo tuo come te stesso, okay. Ma il concetto è assolutamente lo stesso. E poi una delle regole di questa lista, visto che la perdi sempre, forse è non perdere mai questa lista, dovrebbe essere, probabilmente è il comandamento numero 11. Verissimo. Ci fermiamo, torniamo tra un attimo. Sentirsi con un papà senza santi da pregare, si può fare. Ed avere tanti soldi da poterseli rubare, si può fare. Eccoci qua. Allora, intanto su Facebook un ascoltatore, Luigi Tommaso, che ci segue sempre, mi scrive: io seguo un comandamento quotidiano di una sola parola, che è un po' difficile da pronunciare, è una sigla, UFAP SPIDAP, cioè le 10 cose da fare ogni giorno, e precisamente uscire, fare, ascoltare, parlare, sorridere, pensare, imparare, desiderare, amare, pedalare. Beh, e ricordarsele anche tutte. Esatto. Beh, però è una nuova versione di dire, fare, baciare, lettera, testamento. Direi, quindi ripetila, accogliamo. Se l'hai imparata, uscire, uscire fare, ascoltare, parlare, sorridere, pensare, imparare, desiderare, amare, pedalare. L'ultima è bellissima, pedalare. E trovare parcheggio, no? Perché, se pedali non hai bisogno di trovare parcheggio, quindi musulmano mi palo, è imbruttito. Un palo per la bicicletta. Abbiamo altri messaggi, altre cose da leggere? Vediamo un po'. Ma direi che c'è molto nei messaggi, c'è molto ama il prossimo tuo come te stesso, con variazioni sul tema. Vi chiediamo di essere anche un po' più fantasiosi, anche se ci telefonate. Io avevo detto sorridi più spesso, oppure ricordati sempre di dire grazie. Certo, che questo che è quello io che lo dico dici sempre a mia figlia, infatti stavo dicendo capito? È veramente un comandamento paterno, sì. Avevi capito dove volevo andare a parlare. Volevi quasi scriverlo come si dice, per favore. Bravo. Questo è. C'è anche Alessandra che ci dice all'SMS: il mio motto, più che comandamento, è sii alunna e maestra dell'altro ogni giorno. Questo, per capirlo, io ci metterò qualche ora, credo. Ma no. Domani vi dico se l'ho capito. Allora, anche molto bello che ci arriva via SMS. Ricordiamo che il numero degli SMS è 349-238-6666 ed è sì più tollerante del giorno precedente. Questo è molto buono, perché dopo un paio d'anni si è di una tolleranza pazzesca. Pier Giorgio da Palermo, buongiorno. Buongiorno a voi. Buongiorno. Allora, io volevo dare un contributo al concorso sui 10 comandamenti, sì, citando però un romanzo molto bello scritto da uno scrittore che si chiama John Niven e si intitola A volte ritorno, pubblicato da Einaudi un paio d'anni fa. Sì. La storia è brevemente questa: siamo in paradiso, sulla terra è il 1500 e tutto funziona a meraviglia, c'è Leonardo, la musica, eccetera eccetera. Ma non raccontare, non fare lo spoiler, che poi sennò uno non si compra il romanzo. No, assolutamente. Va bene. Vado alla conclusione. Quindi, Dio decide di andare in ferie, prendersi 2 settimane per andare a pescare. Ritorna sulla terra, che sono trascorsi 500 anni, perché 2 settimane in paradiso sono 500 anni sulla terra. E trova che il mondo è un casino: l'inquinamento, l'11 settembre, i nazisti e così via. E si arrabbia moltissimo, la vera propria collera di Dio. Raccoglie tutti gli apostoli, i santi più importanti, e si lamenta di Mosè e dice: io a Mosè, a quel megalomane, non avevo dato 10 comandamenti, ne avevo dato uno, che è fate i bravi. Ecco, vorrei citare questo comandamento. Che proviene direttamente da Dio, che potrebbe riassumerli tutti sostanzialmente. Molto bello. Che non ha bisogno di ulteriori spiegazioni, fate i bravi, si capisce. Sì, però è bella anche con tutta la spiegazione del romanzo di Niven. Grazie per Giorgio. Beh, questo lo mettiamo sicuramente nella lista dei nostri ascoltatori. Ivan da Milano, buongiorno. Buongiorno, salve, buongiorno a tutti. Sì. Io mi riallaccio alla telefonata precedente solo per dire che a mio avviso è proprio corretto quanto il signore di prima aveva detto, cioè che fondamentalmente che siano una religione come quella cristiana piuttosto che l'Islam, piuttosto che il buddismo, alla base, alla radice hanno fondamentalmente un'idea di uomo fondamentalmente buono, quindi i rapporti e le relazioni che ci sono tra uomini e uomini sono gestiti da queste religioni in maniera molto molto pacata, molto sì, tranquilla. E quindi il tuo, No, in realtà il mio comandamento è quello di seguire in maniera intelligente la religione, cioè seguire e capire le cose che ci sono intorno al mondo. Che poi ci siano invece fondamentalmente delle interpretazioni malevole da parte dei grandi gruppi religiosi. Sì, ho capito, Ivan, però a questo punto vorrei entrare su di te. Tu sei una religione, sei credente? Io sono agnostico, in realtà quindi sono... tu hai un comandamento che si applica per gli altri, cioè quelli che seguono la religione, il tuo comandamento è seguitela con intelligenza, assolutamente. È più un consiglio che un comandamento, sì, direi. Sicuramente non è un comandamento ateo, diciamo, nel senso che segui la religione con intelligenza è poco ateo come comandamento, però ci può stare. Però viene da un agnostico, cioè viene da un ateo che dice a quelli che seguono la religione, è un po' come quello di prima, fate i bravi, esatto. Se vogliamo. Grazie Ivan, grazie per aver partecipato. Mille. Beh, anche lui lo iscriviamo, adesso poi tra un po'... Ci riuniamo, facciamo un consulto. La nostra lunga riunione di redazione, poi vi chiamiamo a casa giovedì prossimo. Adesso è il momento di dare un'altra notizia, una buona notizia. Festeggiamo l'abbattimento di un ecomostro che avverrà in settimana a Roma. Natura incontaminata, cavalli in piena galoppata, ruscelli, la trotta salmonata, le valli con le aquile impicchiata. Un le vacche e dopo un po' cacciava le bestie che dopo un po' pascolava la terra, infine coltivava, bastava, ma l'uomo capriccioso spremeva, perdendo ogni decoro e dal dito si è presa anche la mano e un niente diventa il Leviatano. Eco mostro sei tu, proprio tu, nella valle dei templi costruisci i contempli, ma che uomo sei tu, proprio tu, il vero eco mostro sei tu. Allora, l'eco mostro in questione, l'ex residence Roma, nel quartiere Bravetta a Roma proprio, e noi abbiamo convocato per saperne qualche cosa di più Elio Tommassetti, che è consigliere del municipio 12 proprio della capitale. Buongiorno. Io ho detto sarà abbattuto in settimana, ma forse ho anticipato i tempi, perché in realtà la questione è un pochino più lunga. Sì, praticamente diciamo, la vicenda è molto lunga, comunque parte dallo sgombero, sì, delle case dove c'erano degli irregolari, avvenuto nel 2007, e lì c'è stata la votazione di una delibera in consiglio comunale, la 47 del 2007, sì, e da lì l'accordo tra il costruttore e il Comune di Roma era appunto per l'abbattimento dei palazzoni e la ricostruzione, ovviamente. Come sono noti a Roma questi precedente. Scusi Tommassetti, come sono noti a Roma questi palazzoni? Col nome che ho detto io, o c'è un nome più, diciamo, familiare, come spesso capita a Roma? No, Residence Roma. Residence Roma erano proprio dei palazzoni un po' dove si viveva nell'irregolarità, purtroppo. Sì, c'erano, sì, delle forme di integrazione con la comunità locale, però lei può immaginare in un quartiere di 15.000 abitanti avere quasi 3.000 persone appunto irregolari che venivano ospitate, no, dal comune, in queste grandi palazzoni che anche a livello architettonico sono un po' un pugno in faccia. Sì, basta guardare le foto anche per chi non è romano. Però ci stava raccontando come si era arrivati all'accordo per l'abbattimento. Sì, fu votata nel 2007, sì, era allora sindaco Veltroni, sì, questa delibera, la 47-2007 per l'appunto, con cui c'era un accordo che prevedeva per l'appunto la riqualificazione di tutta l'area e oneri concessori per la cittadinanza, insomma, sia opere viarie che opere poi a scomputo all'interno dei palazzoni. Le ripeto, dal 2007 un po' tutto si è fermato, l'iter amministrativo piano piano riandato avanti, la giunta Marino, la giunta di questo municipio, il municipio 16-12, insomma con la presidente maltese, hanno affrontato di petto proprio la situazione in questi ultimi mesi e dopo l'approvazione del piano casa che è avvenuta poco più di un mese fa in regione, sì, il nuovo piano casa della regione Lazio, che ovviamente va di pari passo, no? Anche con un progetto definitivo, ci sarà anche tra qualche settimana la possibilità che si approvi il piano d'assetto della Valle dei Casali, che è importante perché il Residence Roma si affaccia proprio sulla Valle dei Casali, che è un parco regionale, no? Di centinaia di ettari, e quindi approvare il piano d'assetto vuol dire anche definire bene dove mettere gli oneri concessori. Però scusi Tommasetti, ma abbiamo interpretato con eccessivo ottimismo il titolo della cronaca locale: giù l'ecomostro al via alla riqualificazione del quartiere, cioè i tempi sono ancora un po' più lunghi? O ci siamo? Ma i tempi non sono lunghissimi, la proprietà in una recente intervista ha parlato di 3-4 mesi. Perché da chi dipende, da chi dipende poi il reale abbattimento insomma dell'ecomostro, cioè chi è che deve decidere? No, a questo punto è già deciso con la delibera e con gli accordi in la progettazione che sta per essere depositata agli uffici comunali. Sì. Le licenze ci sono già, no? L'accordo di massima c'è già. A questo punto ma chi è che manda, chi è che invia le ruspe, il privato o il comune? No, quello è tutto privato assolutamente. Quindi deve essere mezza Roma che manda effettivamente le ruspe e poi le macerie dove verranno portate, perché anche questa è una cosa che ci si domanda sempre, no? Ma questo tecnicamente io non lo so, però comunque ci sono tutte le discariche, no, per la riqualificazione, sì, il riciclo appunto di queste materie prime sostanzialmente vicino alle case, insomma. Noi tra l'altro siamo una zona di Roma Ovest, dove siamo pieni di queste discariche, di queste macerie dove c'è il riciclo di... No, speriamo che tutto venga messo nelle discariche giuste, nel modo giusto. Però, insomma, e poi ci sarà un tempo per ricostruire. Esatto. La vostra aspettativa a questo punto è che ci siamo. Insomma, tra poco aspettate che arrivino le ruspe. Sì. No, guardi, ora per il quartiere sì, sarebbe una ferita che ci sana, no? Lei tenga conto che si arrivò proprio all'esasperazione, si diede con forza, no, anche i comitati territoriali diedero con forza lo sgombero per due casi di omicidio pochi mesi prima, no, di chiudere il Residence. Ci sono stati tanti casi, che ripeto, anche ottimi esempi di integrazione con tutta la comunità territoriale. Mi tolga però una curiosità, Tommasetti, mi scusi, sì, che è questa. Siccome si parla appunto di costruire un progetto di recupero che ha un nome, le Corti Romane, lo stava in qualche modo anche accennando lei, appartamenti, una palestra, un centro anziani, un polo, sì, culturale, un asilo nido, tutto bellissimo. Non è che si va di nuovo, la domanda maliziosa, la preoccupazione è questa, a costruire altri mostri che poi non verranno finiti e non saranno mostri minori ma sempre mostri? No, perché loro, innanzitutto l'accordo e il dialogo con la proprietà è molto serio e continuo tra amministrazione locale e proprietà. Ci sono dei servizi che servono al quartiere e che sono stati individuati proprio perché servono. Sì. Quando in effetti si parla di servizi c'è da stare un pochino più tranquilli, perché in genere le speculazioni avvengono più sugli appartamenti che non sugli asili, insomma. Sì, però, ecco. Però questo non è che sono solo servizi, nel senso che palestra, il centro anziani, il polo culturale, c'è un po' di tutto, saranno anche delle attività commerciali, suppongo, o no? No, attività commerciale non ci saranno, perché è un quartiere, è proprio una zona residenziale. Lei tenga conto che... Ma la palestra è gratuita, non credo. Ma la palestra sarà una palestra, vero? Non so se sarà gestito, però lei tenga conto, centro anziani, asilo nido, polo culturale, sono cose che servono proprio al quartiere. E poi sì, certo, strutture, ovviamente, non trattandoci di un altissimo numero di appartamenti, no? Non è che è una speculazione edilizia. È proprio la rassicurazione che volevamo avere, perché comunque a pensare male, come si fa peccato, ma non si sbaglia, sbaglia. Tommasetti, grazie. Noi però mi sa che ci dobbiamo aggiornare, perché c'è ancora qualche passettino da fare, direi di sì, prima di arrivare all'abbattimento. Quando ci sarà l'abbattimento? Dobbiamo dare la notizia definitiva. Bravo. Sì. Ci chiami quando c'è la palla d'acciaio, quella che viene buttata contro. Noi quello vogliamo vedere. vedere, proprio a livello simbolico, ma poi insomma non solo simbolico, perché la buona notizia sarà quando sarà crollato e sarà abbattuto l'ecomostro. Grazie. Beh, sa, però ci siamo, quindi noi intanto ci siamo portati avanti con la notizia. 800 24 00 24, c'è il traffico, torniamo tra un attimo. Parla ancora del mio sole, scoprire il mondo che c'è, niente che non si possa fare. Si può fare. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Alle 9.48 abbiamo Paolo che ci chiama da Firenze. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Salve. Su cosa voleva intervenire, Paolo? Un comandamento. Prego. Vai. È questo: fare sesso spesso senza dispiacere mai a nessuno. Beh, è bellissimo. Abbiamo l'applauso. Guarda, non so se poi a giudizio insindacabile della redazione, cioè nostro, di tutti, vincerà Paolo o no. Non diciamolo adesso perché l'hanno chiamato anche gli altri. Già abbiamo messo l'applauso. Già, secondo me il sospetto che fra Alessio e me qui non si batta chiodo, direi che è altissimo. Altissimo. No, ma non è così. Non è così. Naturalmente, non è così. È un invito per il mondo. Molto, Paolo, parlate molto, ma a volte però bisogna anche realizzare. E limoniamo pochissimo. Va bene. Di levare i due comandamenti che sono tra i 10, non fornicare, che fin da bambino mi dicevano: guarda, non vuol dire non si fornicare, non giocare con le formiche, e l'altro: non desiderare la donna d'altri. Ma come si fa a non desiderare la donna d'altri? E come si fa, Paolo? Si può sempre desiderare l'uomo d'altri, si fa così, anche va bene, per esempio, basta fermarsi al desiderio e non andare oltre, certo, dico però io, bisogna fare le cose per bene, cioè non far dispiacere, questo è importante, fare le cose per bene e non far dispiacere. Questo Paolo, continui così, continua così, senta. Paolo. Perfetto, grazie a te assolutamente. No. Grazie a Carmelo in regia. No. Ciao Paolo, grazie. Beh, allora, per me ha vinto Paolo, però non ha vinto. Però poi arriverà la censura che ci farà invece premiare un qualcosa di più buonista. Adesso, questo volevi dire? Adesso do un'occhiataccia di là dal vetro in redazione. Ci sono Giorgio, Claudia e anche messo. Perché giustamente abbiamo messo al di là dal vetro, ci sono cioè un prete, un imam, un rabbino che insieme decideranno. A questo punto dovete toglierci dai guai voi, perché noi abbiamo così dato questo endorsement per Paolo, però dobbiamo premiare seriamente il comandamento più bello, che potrebbe anche essere questo, ragazzi, tranquillamente, però potrebbe anche essere un altro. Che succede? Non succede più nulla. Guglielmo da Latina, sì. Sì, Guglielmo. Buongiorno. Innanzitutto siete immensi. Grazie, mi sembra esagerato, ma però lo accettiamo. Allora, la piccola poesia, piccolissima umiltà: se sei un osso duro, qualche volta cedi. Lasciar lo spazio ad altri, questi i tuoi doveri. Fuori non è facile, ma dentro speri. Dai, vivi i tuoi pensieri. Ecco, tutto questo. Ma io non ho capito umiltà. Esattamente di cosa si trattava. Un comandamento poetico, una poesia. Umiltà, il comandamento. Che però ha bisogno di un sottotitolo, che ce lo rifai un attimo? Tutto quanto. Sì. Se era braccio. Se sei un osso duro, qualche volta cedi. Lasciar lo spazio ad altri, questi i tuoi doveri. Fuori non è facile, ma dentro speri. Dai, vivi i tuoi pensieri. Ecco, appunto così. Ottimo, abbiamo anche un comandamento in poesia. Esatto, tu che sei un esperto di letteratura, che impressione ti sei fatto di questo componimento? Non sono un esperto, assolutamente. Beh, sei un autore, abbiamo l'autore in linea. Stai scrivendo un libro. Diciamo che sono un poeta. Ecco, esatto, abbiamo il poeta in linea e quindi non adesso Guglielmo ci ha inguaiato, perché è uscito fuori con una cosa così, bellissima, sull'umiltà. Mi illumino di mezzo, ho partito di là, pure che siete in mezzo. Adesso stiamo mandando proprio a puttane anche l'italiano, scusate, perché Guglielmo. Anche, sì. Beh, la licenza poi succede che qualche volta uno si inghippa, si lascia prendere, ci la mancherebbe altro. Bello, grazie Guglielmo. Grazie mille. Vuoi dire qualcos'altro? Noi ti facciamo parlare anche fino a domani. Sì. No, basta. Va bene. Basta così, grazie. Grazie mille. Allora, adesso è dura, eh? Era bello come contrappeso. Dopo scegliere fai sesso spesso, invece quello poetico. Insomma, direi che abbiamo toccato un po' tutti i campi semantici, perlomeno. Mi sa che in redazione stanno lavorando, eh? Vediamo. Adesso è il momento di dare un'altra notizia, che la Coldiretti ci riprova a candidare la pizza come patrimonio dell'UNESCO. Vai! The new sensation in the nation, Pizza Boy USA. He's the flying saucer innovation, Pizza Boy USA. He's getting ready now, listen to that crowd. He's a Pizza Boy USA. Toss a pizza, roll a pizza up and all around the Pizza Boy. Look at it fly. Toss a pizza, roll a pizza up and all around the Pizza Boy. Oh, what a guy. They love him so when salutiamo Lorenzo Bazzana, responsabile economico di Coldiretti. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, non ci faccia venire troppa fame, che come sempre noi ci teniamo sabato intorno alle 10 a chiudere con delle cose succulente. Si va in onda a stomaco vuoto. È una vecchia regola, è come in scena, come in teatro. Si va in scena a stomaco vuoto, si mangia dopo. E la voglia di pizza aumenta. Non avete paura del caldo degli zuccheri. Esatto. Infatti il rischio c'è, ci vorrebbe proprio una bella pizzetta. Sarà questo uno dei motivi per cui c'è il tentativo di nuovo, perché non è la prima volta di candidare la pizza. No, non è la prima volta, è un tentativo che ha già avuto, diciamo così, un risultato non positivo, però pensiamo che ci possano essere le condizioni per far sì che questo possa raggiungere il buon risultato, diciamo. Quali sono le motivazioni, credo, serie con cui parte questa iniziativa, che è vostra, della Coldiretti? Ma diciamo che è un'iniziativa che Coldiretti porta avanti insieme con l'Associazione Pizzaioli Napoletani e con la Fondazione Univerde, quindi diciamo che è un pool di soggetti che portano avanti questa iniziativa, che a nostro modo di vedere è un'iniziativa che vale per tutta l'Italia, nel senso che ovviamente avere questo riconoscimento significherebbe cercare di riappropriarsi un momentino anche di questo prodotto che è diffuso in tutto il mondo, ma che vediamo molto spesso viene maltrattato e viene declinato secondo delle regole che non sono esattamente quelle della vera ricetta. Se pensiamo che è una delle più grosse catene che fa la pizza nel mondo, non so se è americana o che cosa, si può dire Pizza Hut. È americana. Cioè. Ma è un'altra pizza, quella non è la pizza, non c'entra niente con la vera pizza. Però ci hanno rubato il nome. Basti pensare che quella catena che voi avete citato ha aperto il primo punto vendita in Cina nel 1990, oggi sono a 1100 punti vendita, per cui evidentemente mamma mia. Una sottrazione di questo elemento pizza a chi effettivamente ha creato questo prodotto, e tutto questo si ripercuote anche nella nostra economia, perché ovviamente se ci fosse maggiore spazio per quella che è la vera pizza italiana fatta con ingredienti poi della tradizione, se poi fossero italiani ovviamente ancora meglio, è chiaro che anche la nostra bilancia dei pagamenti, la nostra economia potrebbe beneficiarne. Sì. Senta Bazzana, voi che siete sempre molto attenti, voi di Coldiretti, insomma al Made in Italy, alla qualità del prodotto alimentare e insomma proprio al Made in Italy come sinonimo di qualità, ma abbiamo le carte in regola come produttori interni di pizza, perché sentiamo parlare di pasta che viene dalla Romania, di pizze fatte con mozzarelle qualità. È chiaro che è un percorso in cui abbiamo delle eccellenze in Italia, dei pizzaioli fenomenali, delle pizzerie d'eccellenza, e abbiamo anche delle situazioni che assolutamente non sono su questa linea. Noi abbiamo fatto una rilevazione statistica sul 2013, abbiamo visto che nel 2013 il nostro paese ha importato 481 milioni di chili di olio d'oliva, 80 milioni di chili di cagliate, quindi falsi formaggi, 105 milioni di chili di concentrato di pomodoro e 3 miliardi e 600 milioni di chili di grano duro, di grano tenero. Quindi è chiaro che questi sono ingredienti per fare la pizza, e le pizze che derivano ad esempio dall'utilizzo di cagliate non sono sicuramente pizze d'eccellenza. Quindi quello che noi vorremmo comunque riuscire a ottenere è non solo questo riconoscimento di un patrimonio dell'umanità da parte dell'UNESCO per la pizza, ma anche riuscire a portare sulla strada della vera pizza un percorso in modo tale che anche lungo il 2015, quando ci sarà l'Expo si possa parlare anche di questo argomento. La interrompo perché dobbiamo salutarci. Grazie a Lorenzo Bazzana, responsabile economico di Coldiretti. La pizza si candida di nuovo con l'UNESCO. Ha vinto il nostro contest Stefano da Bergamo, dubita sempre di possedere la verità, e questo è il comandamento che ci è piaciuto di più. Biglietti e catalogo di Chagall. A domani, grazie a Giorgio De Luca, Daniele Buonamici e Claudia Schiattone, oltre a Andrea Piana, autore del programma, Carmelo Lucella in regia. Ciao da Carlo Gabardini e Alessio Maurizio. A domani, ciao.